È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Com'è che fa Parenzo? Sei di una bravura eccezionale, cioè migliori di giorno in giorno, diciamo la verità. Ti ringrazio, direttore. Tra l'altro io voglio ripetere una cosa: chi poteva immaginarlo che il signor Parenzo, dalla condizione prestigiosa di Iceberg, passando poi successivamente per la 7 e come dire emittenti di carattere nazionale, sarebbe finito qui alla Zanzara a cantare cu. Si studia per questo, amico mio. Si va avanti per questo. Bene, fra poco collegamento con uno dei questori del Senato. Vediamo, cioè quelli che controllano stasera. Quelli che controllano i denari che passano per il Senato. Ci deve fare una rivelazione, cioè dire il famoso menù del Senato è stato finalmente modificato. Dunque, la notizia è questa: il famosissimo menù del Senato, che tirò fuori il sito del signor Giglioli, ripreso poi qui alla Zanzara e successivamente andato su tutte le prime pagine dei giornali, è stato modificato. Cioè, cercheremo di capire se, per esempio, gli spaghetti alle alici, che era tra i primi piatti, che costava 1,60 euro, è stato aumentato, e soprattutto di quanto è stato aumentato, no? Questo certo. Primo piatto, eccetera, eccetera. Però prima voglio farti ascoltare, caro Parenzo, voglio far ascoltare alle numerosissime persone che sono in ascolto questa proposta di Calderoli. Tu mi devi dire se ci capisci qualcosa. Sentiamo. Signor Calderoli, che si è arrabbiato molto con i calciatori ed è arrabbiato anche con i presidenti per la questione dello sciopero dei calciatori, dice che bisogna mettere una tassa sull'evasione. Ma che vuol dire la tassa sull'evasione? Cioè non è che i patrimoni evasi sono identificabili esattamente. Cioè non si capisce. È un genio questo Calderoli. La questo tassa della semplificazione. La tassa sull'evasione, sentiamo. Noi abbiamo inventato la tassa sull'evasione. Il patrimonio, quindi mobiliare o immobiliare, tutto quello che ciascuno di noi ha già pagato in termini di tasse, lo detrae da quello che dovrebbe pagare. Quindi se uno ha già pagato regolarmente le tasse, la patrimoniale non la paga, chi ha avuto la barca, l'aereo, tutto ogni ben di Dio intestato ai leasing, alle società, o che non dichiara niente, alla fine che lo paghi lui o lo paghi il leasing o un'altra società, alla fine pagherà quello che deve pagare. Io sarò ignorante, ma non ho capito assolutamente niente. Non ho capito nulla, cioè d'altra parte qualcuno lo dice, credo il nostro amico Stracquadanio, in un'intervista, dice la tassa sull'evasione, una cosa da barzelletta, come se chi ha evaso le tasse non fosse in grado di evadere anche queste. In un patrimonio immobiliare, ad esempio, come fa Calderoli a distinguere ciò che è frutto di evasione da quello che non lo è? Cioè, cose da pazzi. Vanno d'accordo molto in questa maggioranza. Ma no? Si sentono delle cose pazzesche. A proposito sempre di proposte di Calderoli, quella sulle pensioni di reversibilità, no? Sì. La vedova di un ricco. Sentiamo. La signora che si sposa con uno che, poveretto, lui muore dopo due anni, si prende su 50.000 euro, può prendere 25.000 euro di pensione al mese, indipendentemente dal reddito. Per me sono tutte cose su cui c'è la necessità di andare a intervenire. E poi è giusto che anche i milionari abbiano l'accompagnamento? Naturalmente su questo si può discutere, su piccoli ritocchi, ma come suggeriscono gli esperti, non noi, e sono piccole cose rispetto alla questione centrale delle pensioni, che è la questione dell'anzianità e la questione dell'età pensionabile. Comunque, i milionari e l'accompagnamento. È giusto che un istituto come l'accompagnamento debba essere garantito anche a chi ha 100 milioni di reddito? Lo prende alla stessa maniera come il povero disgraziato. Chi accompagna una persona multimilionaria, se va a comprare la macchina non paga l'IVA. Questo dice il genio di Bergamo, il signor Calderoli. Signor Calderoli. Lo pontoiatra. Signor Calderoli, vabbè, che poi dice anche mi sento più bergamasco che lombardo, se vogliamo sentirlo, ma non mi sembra una cosa nuova, sempre a proposito delle province, vabbè, sentiamolo. Ma lì non basta. Sentiamolo, sentiamo. Noi abbiamo sempre difeso le province, non perché siamo appassionati ad avere i presidenti delle province, ma perché per me la provincia è un forte richiamo alla mia identità. Io prima che lombardo mi sento bergamasco. E mi è spiaciuto quando mi avevano tolto la sigla automobilistica dalla targa rispetto alla provincia. È una cosa gravissima. La sigla automobilistica è una cosa di una gravità inaudita, che ti tolgono la cosa. Discutono anche i passi integrati, sono tutti disperati in Italia perché gli hanno tolto la provincia, PD, V, Vicenza. Ma poi l'hanno rimessa in realtà. Insomma, all'epoca, quando fu tolta, era un dramma nazionale, una cosa pazzesca. Sì, scioperi di massa proprio, infatti. Il senatore Angelo Maria Cicolani, buonasera. Buonasera, qua. Come sta? Come sta? Angelo Cicolani. Abbastanza bene. Senta, signor Cicolani, innanzitutto ci vuole fare questo annuncio sul menù del Senato? Allora, come cambia il menù del Senato? Da quando cambia innanzitutto? Da appena riapre dopo le ferie, dal lunedì 5 settembre. Allora, da lunedì 5 settembre questo annuncio ufficiale cambia il menù del Senato. E come cambia? Cambia il menù, cambiano i prezzi. Vabbè, i prezzi, sì, certo. Il prezzo pagato dai senatori, che diventa un prezzo come fosse una qualsiasi ristorante esterno. Insomma. Per esempio? Ma io credo che si mangerà tra le 25 e le 30 euro. Insomma. Ah, tra i 25 e i 30 euro. Beh, questo è un annuncio, rincaro importante, un rincaro dipende, di quanto? Dipende da che cosa si mangia, naturalmente. No, beh, certo, un pranzo completo, lei dice, no, tra i 25 e i 30 euro, cioè tra antipasto, primo, secondo. Un primo, un secondo, una bevanda... Sì. Un po' di frutta, diciamo, si va su quei prezzi che ho detto io. 25-30 euro, questo è l'annuncio. Se ci mette pure l'antipasto si va di più. Insomma. Si va di più. Quindi un più 30% per sapere. No, di più, quasi, come no. Più 30%? Costa 10 adesso, no, più o meno. No, è molto molto di più, è aumentato di molto. Allora, questo è un annuncio importante, caro Parenzo, sai che siano scatenate? Abbiamo triplicato circa il prezzo precedente, insomma. Triplicato. Tre volte e mezzo, triplicato il prezzo. Due volte e mezzo, tre, dipende da che cosa uno prende. Ci può dare qualche anticipazione? Che ne so, sul primo, su un secondo? Ma guardi, noi, diciamo, lì è stata fatta una gara per la ristorazione, e a partire da lì, e che era concepita su tre livelli, per il primo, per gli antipasti, per il secondo, secondo all'elaborazione dei piatti, il costo che il Senato paga all'esterno, a questa ditta. E quindi dipende molto... No, ma io volevo sapere, per esempio, un primo, quanto costerà adesso? Adesso è più o meno intorno ai 2 euro la media. No, intorno a 5-6 euro. Adesso passerà a 5-6 euro? Oppure, ma se lei prende... Però il primo più elaborato lo paga 12-13 euro. Come un ristorante del centro di Roma qualsiasi. Esatto, un piatto di spaghetti al pomodoro lo paga 6 euro. Sì. Un piatto di spaghetti all'astice lo paga 15-18 euro. Questa è una rivoluzione, caro Parenzo. Allora, questo nuovo menù entrerà in vigore da che giorno più o meno? Dalla riapertura, perché adesso il Senato è aperto solo per le commissioni, eccetera, ma non è aperto come istituzione nel suo complesso. Quindi la riapertura avverrà il lunedì 5 settembre, quindi dal lunedì 5 settembre entreranno in vigore le nuove tariffe, diciamo. Allora, abbiamo il traffico, poi torniamo con un'altra notizia curiosa e interessante che viene dal signor Cicolani, il senatore Cicolani, perché insomma, andando a rovistare tra alcuni magazzini in carico al Senato, ha scoperto quello che dopo vi racconteremo. Traffico per chi viaggia, sono le 18:16, la Zanzara, restate qui, caro Parenzo, c'è un sacco di carne al fuoco stasera. Siamo qui. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di colle, stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Eccoci qua, caro Parenzo. Caro Parenzo, 18 e 18. Non ti sottopongo a una nuova versione della canzone cantata da Pippo Franco. Questa è la Zanzara, naturalmente. 800 24 00 24. Senatore Cicolani, allora, la cosa curiosa, al di là della questione che ha fatto scalpore del ristorante del Senato, è che lei, lo ripeto ancora una volta, andando a rovistare tra gli affitti che sono in carico al Senato, ha scoperto che ci sono i magazzini. Cioè, già lo sapeva in realtà che c'erano i magazzini del Senato. Magazzini, ma il Senato ha dei magazzini, caro Parenzo. Cioè, cosa vuol dire magazzini? Magazzini, cioè posti dove si mettono delle cose. Cioè, il Senato ha delle carte, delle proprietà, degli oggetti, dei documenti di senatori, archivi, tutta una serie di cose per cui necessita, almeno appena adesso, necessita di un magazzino. Ci sono dei magazzini. Ma è tutto online, non è tutto ormai. Non ma c'è, no, ma che vuol dire? Che metti le poltrone online? Tutto. Le poltrone online? Ma buttatele via le poltrone, vendetele le poltrone vecchie. Dire un magazzino, tu dici non c'è bisogno di magazzini, ma chi se ne frega, ma buttatevi le poltrone, ma vendetevi all'asta, fate cassa. Anch'io no? In realtà pensavo che non ci fosse bisogno di un magazzino, ma però dai, comunque andiamo avanti. Il signor, il senatore Cicolani, no, che devi chiedere scusa, è giusto che no, tu reagisci così. Le poltrone, ma non è che ci sono solo le poltrone, ci sono le poltrone di Giolitti. No, spero di no, nei magazzini al trullo adesso. Allora, fino adesso veniva pagato dal 2003, senatore Cicolani, mi corregga se sbaglio, un affitto per questi magazzini di non so quanti metri quadrati di 1.400.000 euro l'anno, sbaglio? Sì, no, non sbaglio. 1.400.000, quanti metri quadrati? Sui 12-13 mila metri quadrati. Beh, insomma, notevole, no? Sì, sì. Magazzini grossi, capito Parenzo? 12-13 mila metri quadrati. Ma uno scandalo, ma si dimettono tutti. Vergogna. Ma chi si deve dimettere? Ma no, non lo so, ma come si fa a pagare un affitto? Chi si deve dimettere, scusa? Tutti, sei una vergogna, denunziare tutto. Guardi, ma si può pagare nel periodo di crisi 1.000.000 euro per un magazzino? Ma per che c'è nel periodo di crisi? 1.400.000 euro per i magazzini del Senato. Cioè, 2 miliardi di vecchie lire. Però il senatore Cicolani, giustamente dice che si può risparmiare. Oh. Quanto si può risparmiare per questi? Ma molto. Ah, beh, questo allora ci fa capire che in realtà prima no, si spendeva troppo. Noi, anzi, fino adesso si sta spendendo troppo. Perché ce ne siamo occupati. Intanto io sono diventato questore dai primi di luglio di quest'anno, sì, un mese e mezzo fa. Perché andava rinnovato oppure no il contratto con l'affitto. E quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se effettivamente serviva o meno. E chiaramente non l'abbiamo riconfermato, perché intanto abbiamo visto che si può diminuire la quantità degli archivi, eccetera, sì, proprio sì, forzando, come diceva il suo collega giornalista, Parenzo, sì, ancora di più la parte. Cioè, quanti sono i metri quadrati eccedenti di questi 13.000? Di quanto c'è bisogno? La metà. Dimezzare, secondo me. A dimezzare, cioè abbiamo, sì, fino sì, adesso abbiamo affittato 13.000 metri quadri, ce ne sarebbe stato bisogno di 7.000. Sì, beh, sì, tieni conto che c'è uno sviluppo in questi 10 anni anche dei sistemi informativi. Quindi adesso quanto pagherete la prossima asta che avete fatto? Prima è stata una trattativa privata. L'abbiamo mandato in gara, intanto sì, stiamo cercando degli immobili del demanio, se possibile, quindi in modo da pagare canoni demaniali e basta, quindi non so, immobili dismessi o dismettibili dalla difesa o cose di questo genere. In alternativa facciamo una gara e quindi l'esito della gara lo sapremo poi nel mese di ottobre. Più o meno quanto si pagherà invece di 1.400.000? Io sono convinto che intorno alle 500.000 euro. Parenzo, abbiamo pagato 1.400.000 fino adesso. Bravo, bravo, questo. Ma io non capisco chi ha fatto quell'appalto lì, perché voglio il nome e cognome. 10 anni fa. No, 2003 anche, lei mi ha detto, 2003. 2003, sono 9 anni, 8 anni fa. Vabbè, 8 anni. Il contratto è di 9 anni. Trattativa privata? Questo non glielo so dire, credo di no, credo che anche lì fu fatta una procedura, però tenete conto che oggi i prezzi di queste cose sono molto diversi, perché la crisi in questo ha un effetto positivo, nel senso che ha liberato una serie di capannoni, per cui oggi il mercato è migliore sicuramente di quello che allora. Cicolani, però la cosa curiosa è un'altra, mi dica la verità, mi descriva la scena quando lei è entrato dentro. Me la descriva come me l'ha descritta al telefono, mi descriva la scena che perché no, lei è una persona sincera, trasparente, gli spazi poi li utilizza, no? E quindi io ho capito, certo, che li utilizza. da padre di famiglia ho detto che se io gli toglievo degli spazi, poi magari non, uno faceva usare più la testa che le cose. Quindi, e dunque lei è entrato, mi descriva la scena. Carta di tutti i tipi. Ma soprattutto? Che vanno dagli Scottex, la carta igienica. Ma c'era una marea di carta igienica, mi dica la verità, una marea di carta igienica. Eh? Ma questo, ma non perché sia stata comprata, queste sono state comprate tutte con gare Consip. Quindi, no, ma io lascio perdere, non voglio mettere. Tenete nei magazzini però la carta igienica. A disposizione, magari è stato esagerato i quantitativi, perché più si ordinava e più si risparmiava, ovviamente. Cioè, allora lei mi sta più dicendo quantità. Che questi magazzini erano pieni di carta igienica. No, come no, lei, ma è come no, come no, sì. Tonnellate, chili o tonnellate, magari, secondo lei? Se ne poteva comprare di meno avendo meno spazio a disposizione, non è che erano pieni. Comunque centinaia di metri quadri, tonnellate di carta igienica. No, ci sono una parte di archivio storico importantissimo, ovviamente, perché immaginate quante carte sono. C'è una parte di archivio fisico, quindi tutta roba. Ma lei che ha pensato nel momento in cui è entrato? Però mi dica la verità, perché la scena me la deve descrivere come me l'ha descritta prima. Almeno nel momento in cui è entrato, cosa ha pensato? Vabbè, non con la stessa espressione che mi ha detto al telefono, lo capisco. Questa è la zanzara. Io non l'ho sentita, io, perché avete parlato naturalmente, voi due al telefono. No, perché vorrei che se riduciamo il numero dei senatori, siamo approvvigionati di carta igienica per 3 legislature, ecco, diciamo. Ha pensato anche un'altra cosa, ma quanto vanno in bagno, lo dico io, i senatori. Quanto vanno in bagno i senatori? Dunque, la cosa è questa. È giustificato comunque, perché l'età al Senato, come sai, l'elettorato vabbè, che c'entra, non è che uno va in bagno più spesso, stai dando del vecchio rincoglionito e anche un po' al senatore Cicolani, scusami. No, ma gli anziani, ma scusami, è anche un po' incontinente, al senatore Cicolani. Gli anziani vanno in bagno di più dei giovani. Scusi, senatore Cicolani, quante volte va in bagno lei al Senato? Quasi mai, ci vado a casa. Ma senta, no, una curiosità sulla io una volta sono stato a Washington e ho comprato i gadget della Casa Bianca, dove c'era questa bellissima carta igienica che ancora conservo con amici. Sì. No, la anche nostra è senza stemma. Non c'è la S. Non c'è la S. No. Ma è morbida, quanti piani di morbidezza sono la carta igienica del Senato? Ci faremo il giro della terra, secondo me. Senta, ma è vero, c'è una cosa pazzesca, ma è vero o no, senatore Cicolani, che oggi, come scrive credo il Fatto Quotidiano, forse anche altri, avete speso 8,7 milioni di euro per una polizza sulla vita dei senatori? No. Non è vero. Non sono queste le cifre. Articolo di Carlo Tecce di oggi a pagina 5 del Io leggo questo, magari c'è anche altro. No, c'è la polizza infortuni e vita, tutto questo sistema. Adesso non ricordo i numeri, ma c'è una parte di, tra l'altro, ancora in gara. Scusi, quindi, ma perché i senatori devono avere perché i senatori devono avere la polizza vita? Pronto? Pronto? Sì, c'è una spiegazione. Ci sia una spiegazione, senatore Cicolani. Cioè, perché il Senato deve spendere non so quanti milioni di. Se vengono anche i dirigenti industriali, diciamo così, hanno il cosiddetto hanno le polizze infortuni, quello lo paga il privato. Ma anche se, certo, le paga il privato, ho capito. Anche il pubblico, qui lo paghiamo noi. Anche nella pubblica amministrazione. Ma quindi sono, cioè, è normale avere un'assicurazione per i senatori in caso di morte, 6 anni a 8,7 milioni di euro. Lasciamo perdere le cifre. Ma no, non sono queste le cifre. Vabbè, lasciamo perdere le cifre, ma io non so se sia normale. Le cifre adesso non ce l'ho davanti, ma non sono queste le cifre. E guarda, ma rischia di più un senatore o un muratore? Sia il personale che i senatori, tutti quanti. Tutti? Sì. Anche il personale della Camera è tutto sicuro. Ed è normale, sì, no, questo è vero, ma è normale secondo lei? È una cosa normale? Ma sono fatti che riguardano, per quello che riguarda il personale, sicuramente negoziazioni contrattuali, quindi io le ho trovate, devo dire la verità. No, ma certo, non sto dicendo che è colpa sua. Sto dicendo semplicemente l'assicurazione vita, perché siccome le altre pare che non si farà, l'assicurazione vita, perché io devo assicurare? Anche quella infortuni, cioè, guardi. Sì, ma perché l'assicurazione vita per i senatori? Perché non lo capisco, cioè, il Senato deve pagare, pare adesso, comunque milioni di euro per l'assicurazione a vita sui senatori. Bah. Questo io le saprò essere più preciso anche lunedì, guardi. Va bene, perfetto. Questo dato, ma non per lei sarebbe da abolire o no? Eh? Per lei sarebbe un privilegio da abolire o no? da ragionare. Potrebbe essere un privilegio in cui si può chiamare a concorrere il senatore, e credo che debba essere chiamato a concorrere il senatore. Ah, beh, almeno questo, questo sì. Vabbè, comunque, montagne di carta igienica nei magazzini del Senato, una cosa pazzesca. Grazie, senatore Cicolani, grazie, buona serata. 18 e 28, abbiamo la borsa 800 24 00 24. Le galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. Eccoci qui, la Zanzara riprende alle 18.33. Quante cose si scoprono, caro Parenzo? Quante quella cose. Della carta igienica, incredibile, bravo, incredibile. La carta igienica, montagne di carta igienica nei magazzini del Senato, una cosa pazzesca. Ma che la comprano a fare tutta questa carta igienica? Gatta Cicova, dici, con gli appalti, con le cose. Ma no? Quello sì, ma quello sicuro. Ma poi ci sono scordati alcuni funzionari che magari così un po' allegramente mettono una firma, non si accorgono. Non si accorgono neanche di quello che firmano, secondo me. Spesso questi senatori che firmano, ma manco si accorgono di quello che fanno. Voglio sperare. Andrea dalla provincia di Ancona, no? Beh, sì. La manina, peggio mi sento. Sì, buonasera. Dica. Vorrei intervenire sulla dichiarazione di Calderoli. Quale dichiarazione? Evasione. Ah, la tassa sull'evasione, sì. Sì, che lei aveva giudicato come una proposta sciocca. Fuori no, non sciocca, che non la capisco. Non è questione di sciocco. Uno può giudicare sciocco qualcosa che è concreto. Esatto. Ma... Il fatto che lei non la capisca, per il fatto che lei non la capisca, la invito a riascoltarla, perché effettivamente non sembra così sciocca. No. È un po' articolata, diciamo, ha la forma di uno di quei problemini da terza media, no? Se uno si mette giù 5 minuti e scrive i dati, poi alla fine qualcosa esce. Il concetto qual è? Stretto stretto, che poi dopo la fattibilità tecnica è tutta da vedere, questo è chiaro. Lui dice: io tasso qualsiasi cosa sia presente sul territorio nazionale. Poi lei, Cruciani, quando va a pagare le sue tasse, supponiamo che metà ne paghi, metà ne evada, poi paga un'altra tassa, non lei, paga la tassa a chiunque abbia il possesso di uno di qualunque dei beni che ha in Italia. Quindi lei, Cruciani, cosa dovrebbe fare? Per non pagare due volte, dovrebbe portare in detrazione, qualora fosse proprietario di uno dei beni presenti in Italia, la seconda tassa che ha pagato, per pagare una volta sola. Chi pagasse tutte le tasse pagherebbe la seconda meno la prima, e quindi pagherebbe le tasse una volta sola. Dire, non è che non l'ho capita io questa, non è che non l'ho capita io questa cosa qua, non l'hanno capita anche esperti della materia. Cioè, sì, però sembra che qualcuno non la voglia capire, perché è abbastanza semplice. Quindi Calderoli forse ha detta una giusta su tante frescacce che ha detto. La invito solo a pensarci un po' meglio. Va bene, grazie Andrea. Francesco da Milano, buonasera. Carissimi, come state? Bene, dica lei. Bene, bene. Guardi, io vi chiamo per un mio problema personale. Sono conscio che è una cosa veramente borderline, però nella vostra trasmissione spesso si sentono cose simpatiche, interessanti, intelligenti in molti casi, però la maggior parte delle volte, ragazzi, io sento delle cose che mi mettono di un malumore. Veramente, a volte mi viene voglia di strappare il volante e lanciare fuori la finestra. Vabbè, ho capito, Francesco. Non lo faccia, perché non vogliamo essere responsabili di queste tragedie. Insomma. Però vi rendete conto che è una cosa strana. Insomma, penso che è una cosa che riguardi molti dei vostri ascoltatori. Che nonostante senta parlare gente come Giovanardi, gente come Mastella, eccetera, voi gli date pure corno, siete veramente impietosi verso di noi. E nonostante questo, stiamo lì a sentire cosa direte dopo. Allora? Ho bisogno che, insomma, cercate un po' di aiutare anche quelli come noi che si fanno un'ora nel traffico milanese. E poi, guardi, le spiego il mio problema personale. Io esco dall'ufficio alle 7 e vado a prendere la mia fidanzata alle 8. Quella esce dal lavoro dopo una giornata, magari desiderosa di condividere con me le sue impressioni sulla giornata, raccontarmi com'è andata. Invece, già quando esce dal cancello della sua azienda, mi vede in macchina che batte i pugni sul volante perché magari sta intervistando Scilipoti, cose del genere, no? Insomma, abbiate un po' di pietà. Adesso io ho risolto il problema perché la mia fidanzata ha cambiato lavoro, quindi non ci incroceremo più in macchina quando ci siete voi. Però ogni tanto, insomma, questi personaggi, schivateli, fateci questo piacere. E che schiviamo? Che lei è impazzito, che schiviamo? Grazie. uno di questi personaggi, uno di questi personaggi è stato protagonista ieri di uno scontro epico. Potrei definirlo così, uno dei tanti scontri epici che avvengono qui casualmente, perché non costruiamo nulla. Scontro epico con Parenzo, nato in realtà da una risata di Parenzo, da una risata quando il signor Scilipoti ha detto: sono il segretario del Movimento di Responsabilità Nazionale, cosa vera. E lui si è messo a ridere, Parenzo. Chiedo, mi dispiace. Sei... No, era più forte di me. Sentite la reazione di Scilipoti. Popolo e territorio. Chi se l'ha inventata questa? Chi è venuto in mente? E non era meglio responsabili? Ormai vi chiamavate così. Era un po' sputtanata come cosa, però... No, dottore, non era sputtanata e non è sputtanata perché io faccio il segretario nazionale del Movimento di Responsabilità. No, quella è un'altra cosa, il Movimento di Responsabilità. Il segretario nazionale. Vabbè, dai, Parenzo, mamma mia. In questi giorni cioè, effettivamente lui ha sempre difficoltà, poverino, il sole in questi giorni, il caldo l'ha messo in grande difficoltà. Non capisco come continua ad essere là accanto a lei. Se non ci fosse stato questo Movimento di Responsabilità Nazionale, il primo tu Parenzo, che non capisce niente di economia e di finanza, saresti stato tu e la tua famiglia in mezzo alla strada. Beh, adesso, invece, no. Grazie a questo, no, grazie a questo Movimento di Responsabilità Nazionale, il 14, non sono in mezzo a una strada. Il 14 di dicembre Scilipoti ha fatto quello che oggi, ieri e domani dice, ha detto, no, e dirà, no, il Presidente, no, della Repubblica. Stai zitto, stai zitto e ascolta, stai zitto e ascolta, no. Mediocre. Ieri e oggi. Mediocre, stai zitto. Ti ascolta, mediocre! Domani mediocre, no. Stai zitto! Il gallo si sa, becca qua, becca là, la talpa fa tutti i buchi che puoi. Fammi parlare un attimino serio con il dottor Cruciani, persona per bene, è giornalista vero e non è giornalista falso come te. Scilipoti ha ucciso Cruciani in due tempi. Stai zitto! Cioè, hai zitto! Stai zitto, cretino! Stai zitto! Non parlare! Continua a fare lo scimunito nel vero senso della parola, ma nel termine dialettale proprio tipico siciliano. Cioè, che vuol dire scimunito? Che detto in termini siciliani. Che vuol dire scimunito? Perché è un scimunito in termini dialettali siciliani. Che vuol dire? Uno che ha avuto qualche difficoltà, non solo da piccolo ma anche da adulto, al sistema nervoso centrale, allora è rimasto toccato e conseguenzialmente non può e non riesce a distinguere le cose serie dalle banalità. Allora, però, e siccome è un banale, concludo, siccome è un banale come tanti altri in Italia che sanno soltanto parlare e non concretizzare niente, ma fanno soltanto chiacchiere, pungeranno te. E tutto questo perché siccome io sono un democratico e sono anche segretario del Movimento di Responsabilità Nazionale, ho rispetto anche per i mediocri e per coloro i quali hanno dei deficit mentali. Un attimo, stasera credo che non ci siano le condizioni con niente, un elemento del genere di poter continuare. Ma non ha detto niente. Veramente un attimo, sono mortificato, domani sono con lei, ma stasera io continuo a... Eccoci qua, 18:40 800 24 00 24, e ti devo presentare, caro Parenzo, un ospite speciale questa sera. Che abbiamo, succede? Perché approfittiamo della vacanza di una trasmissione a noi molto cara. Sono già, guarda, sono al caldo qui a Milano, fa un caldo pazzesco, come sai. Sì. Quindi devo sedermi o posso continuare a cioè, cosa devo fare? Perché? No, per l'ospite che c'è. Cioè. No, preparati un attimo, sigla. Sì. Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle. Eccoci qui, hai capito già, Parenzo, il mitico, a me molto caro, devo dire, Divino Otelma. No. Vi salutiamo e benediciamo da Portofino, amate pecorelle, dove siamo in meditazione sui mali del mondo. Ecco, ci rimanga in meditazione. Eh? Ma no, Parenzo, non iniziare subito, stai calmo adesso, su, stai calmo. Ma no, perché la presenza di questo povero insignificante omuncolo è di puro contorno. Grazie divino, grazie divino. Ma non perché chiamami divino? Chiamalo Marco Belelli, scusa, divino. Ma scusa, chiuda quella bocca, tanto ben sanno i nostri ascoltatori che nella sua zucca non c'è nulla. Sono parole che fuoriescono e che non hanno nesso. Se ne faccia una ragione, lei non esiste, lei non conta, lei non è nulla. Lei è Marco Belelli, lei è del nulla. Quindi ti profermi quando noi appariamo. Baci la sacra vesta, si inginocchi, si renda conto di quello che lei è e di quello che siamo noi, di quello che lei non sarà mai e di quello che noi saremo sempre. Ma il caldo è terribile per gli anziani. Ragione. No, il caldo è terribile, fa vittime. Recichi un mea culpa per le sue evidenti gravi manchevolezze e taccia. Oh, benissimo, un attimo solo, però Parenzo, io ho chiamato il divino. Innanzitutto, caro divino, vogliamo fare un saluto da qui, dai microfoni della Zanzara, di Radio 24, ai nostri colleghi amati, che non dimentichiamo mai, anche se non è che hanno problemi, sono in vacanza, i signori Lauro e Sabelli Fioretti, da cui lei è ospite fisso durante tutto l'anno. Quando tornano, che ci manca molto, hanno un giorno dalla da pecora. Dalla premessa c'era parso che si alludesse ai quattro che avevano rapiti e poi liberati. No, per carità. Ma invece se si tratta del duo, insomma, di questo duo prodigioso, certamente noi ben volentieri elargiamo la nostra paterna benedizione in quella direzione, oltre che naturalmente in direzione anche di tutti i supplici che in questo momento sono all'ascolto della Zanzara. Bene. Allora salutiamo Lauro. In macchina però toccando ferro, lo sai, no? Chi comunque sta toccando ferro? Dice. No, in macchina quando fa dare le benedizioni. Comunque andiamo avanti. Beh, non c'è divino però. Cose da pazzi. Cioè. Chiamalo Marco Belelli. Il signore si chiama Marco Belelli. Ma cosa c'entra? Adesso noi lo chiamiamo. Ma il poveretto non sa cosa dire. Ma non sa. Si chiama Marco Belelli. È ripetitivo. Recita sempre la stessa linea. Sempre insulsaggini senza capo né coda. A nessuno interessa che esista un qualcosa chiamato Parenzo. Noi di Parenzo è noto, ricordiamo quella simpatica canzone, La mula di Parenzo, appunto. Sì. Ma almeno quella aveva un senso, aveva una prospettiva, incoraggiava i soldati prima dell'attacco o prima della fuga. Qui invece che cosa significa Parenzo? Nulla, insomma. Niente. Allora, divino, noi siamo qui per ascoltare la sua parola su alcuni fatti fondamentali, su alcune persone significative che sono al centro della discussione pubblica, per capire cosa succederà a queste persone nei prossimi mesi, diciamo così. Allora, la prima domanda è molto semplice, di attualità. La prima questione, il primo vaticinio che lei potrebbe darci riguarda il signor Formigoni. Formigoni riuscirà o no a essere il candidato del centrodestra nel 2013? Dica. Sentiamo. Noi abbiamo chinato più volte il nostro sguardo misericordioso nei confronti di questo soggetto. Lo abbiamo analizzato accuratamente. Ma chi? E il vaticinio, se si riferisce all'ipotesi di una candidatura sostitutiva del Dux, chi è il Dux? Perché è di questo che si sta parlando. Sì. Ebbene, non vi sono possibilità in tal senso, e ciò è spiegabile anche per chi ha scarsa dimestichezza col periodare politichese. Basti una considerazione. Se Formigoni ipoteticamente sostituisse il Dux, sarebbe una sostituzione eccessivamente pregnante, perché Formigoni non è nella posizione di Alfano, cioè il segretario di Berlusconi. Sarebbe un segretario forte. E è quindi evidente che non lo sarà mai l'alternativa di Berlusconi, perché chiunque sia l'alternativa di Berlusconi dovrà essere un elemento debole. Scusi, però, divino. Sui baci Perugina, dove ha letto questa analisi? È un'analisi estremamente accurata, sì. Naturalmente questa è solo una sfaccettatura, poi ce ne sono delle altre, ma noi abbiamo offerto alla riflessione, non naturalmente di Parenzo che non può capire questi concetti. Ma le sue analisi vengono pubblicate anche sul Wall Street Journal. All'attenzione di quegli ascoltatori che invece certamente comprendono, sì. Questo è uno dei tanti elementi che spiega come Formigoni potrà fare molte cose interessanti, ma non certamente questa. E dunque Formigoni, secondo il vaticino del Divino, non sarà il candidato del centrodestra nel 2013, o esatto, sbaglio? Esatto, è esclusa questa possibilità. È esclusa, capito? Escluso. Capito Parenzo? Escluso, sì. Ma quando accadrà tireremo fuori. Ma come funziona? Chiedo seriamente. Non accadrà, sono molto serio. Non può accadere. No, non può accadere. No, voglio chiedere a Della. Chiedo a Della. Berlusconi è vivo, poi naturalmente. Finché quando, Berlusconi è vivo, attenzione. Quando Berlusconi valcherà il velo di Ilside, allora il discorso potrebbe cambiare, ma allora il velo, scusi, scusi Divino, il velo di chi? Prospettiva, scusi, il velo di Iside. Sì. Chi è Iside? Quando il Dux varcherà quel velo, sì. E quindi vabbè, entrerà nel mausoleo che si è fatto costruire, sì. A quel punto anche persino Formigoni potrebbe a quel punto essere resuscitato, ma è un'altra questione, un'altra vicenda. Finché il Dux non varca il velo di Iside, sì. E non entra nel mausoleo, fino a quel momento per Formigoni non si aprirà quella porta. Hai capito? No, ma questo è no, fondamentale. Non ho capito. Non io ho però capito. Voglio, prima di dare la linea al traffico, voglio... Come fa i vaticini? Questo non no, vabbè, adesso lascia perdere. Il vaticino... Prende un gatto, lo butta in una pentola, cosa fa? Come fa a fare? Vede gli uccelli in volo? È incolto, Parenzo, incolto. È incolto. No, ma posso chiedere come... No, voglio sapere gli strumenti del suo lavoro. È palesemente a livello del sottoscala. Allora, adesso che altro si può dire una persona che non è colta, che non legge, che non conosce la storia, che non conosce gli elementi essenziali del vivere? Se noi le facessimo alcune domande, lei probabilmente non saprebbe rispondere. Scusi, genio della lampada. Per esempio, chi no, sono genio della lampada, scusi, chi sono, solo che cosa sono gli epinici? Gli epinici. Che cosa sono? Gli epinici, la sono risposta di Parenzo senza guardare internet dopo il traffico. Gli epinici, sai cosa sono gli epinici? Gli epinici, sai cosa sono gli epinici? No, io so cos'è la colica renale, che è quella che mi sta venendo ascoltando il Divino, ma il resto... Traffico, torniamo subito. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, le papere piangono. Eccoci, la Zanzara riprende qui su Radio 24 con un ospite d'eccezione. Stiamo approfittando dell'assenza, della vacanza, di un giorno da pecora, uno dei nostri programmi preferiti, caro Parenzo, su Radio 2, che riprenderà forse alla fine di settembre, e abbiamo strappato ai nostri amici Lauro e Sabelli Fioretti il Divino Hotel, ma per alcune previsioni cosiddetto divino, sì, Divino Hotel, ma Divino Hotel, no, detto da lui. Detto da uno che non è neanche umano, è un grande complimento. Previsioni su alcuni uomini politici fondamentali in questo periodo. Prima... Ma pensate che mi fa impazzire lei, Cruciale, che è direttorissimo, bravissimo di questa televisione, perché di con serietà pone quesiti come fosse una persona normale, la signora Telma. Cioè, come dire, lo tratti, questo tu hai grande rispetto a me, sei una persona molto per bene, perché lo tratti come una persona normale, uno che gira, come abbiamo detto più volte, agghindato, con cappelli, turbanti, serpenti sulla testa, belli, un uomo di un kitsch pazzesco, che si fa chiamare Divino Telma. È come se io da domani metto sulla mia porta di casa, che so io, maestro Parenzi, ma è come maestro Parenzi. Sarebbe incredibile, nessuno la seguirebbe, nessuno sentirebbe di ascoltare la sua parola, ed è evidente, la sua invece la seguono, insomma. La sua parola la seguono. Ragione. Lei non fa ascolto, Parenzo, lei lo fa abbassare, capisce? Non è la sostanziale differenza. Lei si occupa anche di altre tante, naturalmente, perché ce ne sono poi tantissime, infatti adesso è ovvio che lei sarà andato di corsa a controllare cosa significa epinici, quindi non ha alcun senso che ci venga no, dire non adesso sono andato a controllare. Cosa vuol dire epinici, non lo sapeva prima, non me ne frega nulla saperlo in futuro, non me ne frega niente. Divino, invece, ci parli del qui conce senza andare a vedere su internet il qui conce. Ci dica che cos'è il qui conce. Le possiamo dare al massimo due, tre secondi e poi basta, perché sennò chiunque è in grado a questo punto di capire cos'è il qui conscio. Sì, no, lo sapevamo già, quindi la questione è chiusa. La questione è chiusa. Stia sereno, che all'ospedale le tolgono tutti quei strofanti che ha in testa. Insomma, non sa cos'è il qui conscio. No, come lo chieda pure a queste persone vestite di bianco. Che rapporto lega Ernest a caso bon? Sa almeno questo? No, naturalmente, perché lei probabilmente non sa neanche chi è caso bon. Quindi siamo a questi livelli, parecchio. Allora, divino, però, divino, non, lasciamo perdere adesso questi litigi e questi screzzi. Andiamo al sodo. La questione Tremonti, velocemente, perché dopo dobbiamo chiudere. La questione Tremonti resterà ministro dell'economia fino alla fine della legislatura? Questo è un grande interrogativo. Dunque, noi innanzitutto la cosa su Formigoni la manderemo subito alla non ha una cancelleria Formigoni, ha una segreteria. Alla segreteria di Formigoni per rassicurare, inutile che si agiti, il divino ha fatto un vaticinio: Formigoni non potrà essere candidato finché Berlusconi è vivo. Così esatto, ha vaticinio. Esatto, dunque lo manderemo subito in alla segreteria di Formigoni. Sì, un'analisi pazzesca. Tremonti invece rimarrà ministro fino alla fine della legislatura? Oh. Ecco, la questione di Giulio, che noi abbiamo naturalmente sviscerato in molte con tutti i problemi che c'ha pure Giulio, lo monitoriamo costantemente perché è un asse portante del chiaro vivere corrente, sì. È più complessa, ma non è nella stessa prospettiva del precedente caso. La prospettiva di Giulio è completamente diversa. Sì. E andando al nocciolo. Perché lo chiama Giulio? Scusi, divino. Potremmo così sintetizzare. Sì. Giulio è destinato a restare ministro dell'economia finché lo vorrà in questa legislatura. Non vi sono forze sufficienti per scalzare Giulio dal seggio, sì, quindi ogni scelta è riconducibile a lui stesso. Sì. Egli è il dominus. Dunque resterà. Quando e se lui deciderà di lasciare, a quel punto lascerà, ma lo farà liberamente. E se lo farà, sarà perché dentro la sua mente vi sarà un piano alternativo che lo porterà ancora più in alto. Oh. Una cosa pazzesca. No, ma questo però. Dimmi, Parenzo. Perché non fai tu il come. Oh! Sei con me. Oh! Clamoroso! Non disturbi gli ascoltatori che stanno riflettendo e si stanno finalmente rendendo conto del gli ascoltatori stanno chiamando il 118 e stanno mandando non una macchina, non un'ambulanza, ma proprio un plotone di ambulanze. Giulio è lì. È lì ben proteso. Giulio, elevato in alto, soltanto lui potrà tagliare il nodo gordiano, soltanto lui potrà sciogliere il rebus. La situazione è più grave del solito. Nei prossimi immediati tempi, forze che abbiano una qualche consistenza, potere è un potere condensato, un potere turgido, un potere turgido che non può essere eliminato d'un sol colpo. A Belelli andiamo e basta. Belelli, su. Amleto. Ma questo qua, ma voi lo pagate per caso? Amleto, è fatto così, è scettico. No, nei confronti. Voglio solo chiedere una cosa, divino. Capire, chiamo anche io divino. Mi viene mal di stomaco. Si rivolge alla cancelleria, mandi la sua richiesta per iscritto, sarà esaminata, le sarà risposto. Ma chi è che risponde alla cancelleria? No, ma vedete, siccome ci sono ancora le borse aperte a New York, quindi le sue dichiarazioni verranno prese. Ma qua siamo a livelli di nanismo assolutamente. No, faccio una previsione insulto, su questo insomma, default. Sai cosa vuol dire default, no? Qui le borse, qui, là, ma cosa vuol sapere? Cosa vuol sapere? È questo che vuol sapere? No, faccio un'analisi rapidissima su questi crolli di borse che ci sono. Sai cosa vuol dire la parola default? Quello che lei ha al cervello, il default. Il crollo che c'è stato. Il crollo, noi già come minimo 2 anni fa, ma probabilmente anche prima, andando ad ascoltare i nostri vaticini nei più svariati siti, noi l'avevamo detto quando 2 anni fa c'erano stati i primi indizi, però si tendeva a rassicurare il popolo, si tendeva a dire usciremo, invece lei aveva previsto tutto, divino. Noi avevamo detto noi non usciremo, voi non uscirete, voi non avrete la possibilità di uscire, non ci sarà affatto la come dire, il risorgimento economico, sì, ci sarà invece una serie ininterrotta di catastrofi, come infatti poi è puntualmente accaduto. Allora, abbiamo 20 secondi, e allora l'ultimissima cosa, molto veloce, sulla questione centrale poi alla fine. Berlusconi riuscirà a fine legislatura, sì o no? Risposta secca, Divino, so che è complicato per lei dare una risposta secca, però siamo tutti qua che pendiamo... Se per fine legislatura si intende il 2013... Sì? Noi abbiamo già detto in diverse occasioni che non abbiamo motivo per riflettere un altro commento. A noi non risulta che si possa giungere alla fine di questa legislatura in maniera normale e rispettando i tempi previsti. Dunque la legislatura si interromperà prima. Grazie, Divino. Prego, prego, prego. Grazie, grazie. Diciamo, siate lieti. Grazie. No, non benedica nulla, non sono pecorella di niente. Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19. Eccoci, eccoci, 800 24 00 24, caro Parenzo, dopo i vaticini del divino Telma. Sai, perché tu nella tua infinita educazione li chiami vaticini, ma tu... lui li chiama, io sto ripetendo quello che dice lui, non è che sto dicendo un'altra cosa. Ma tu ti presenteresti, stavo pensandoci prima durante il telegiornale, durante la pausa, ma tu ti presenteresti a una cena, ad esempio, con Telma? Cioè, sinceramente ti invitano a una cena elegante a Roma, a Milano, penso, no? Una tante cene. Perché dovrei andare con... Perché dovrei andare col divino? È una domanda da farci, c'è una persona che mai uno si porterebbe in giro, no? No, ma, ma perché dovrei portarmi in giro il divino? Scusa, tutto vestito con gli anelli, con i mantelli, care pecorelle, noi vi benediciamo, ci delle robe di una banalità. Ma è uno showman, No, ma il dramma è che ci crede. No, dice delle cose. No, è tutto sconfusionato, poi col caldo, poveretto, tutti quei paramenti sacri che ha lì in testa, col caldo, immagina, poveretto, col caldo, il sole, tutto sudato, questi parami, sto serpente sulla testa, mamma mia. Andiamo avanti, va. Allora, i titoli del TG3 presentati da Sabina Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Benigni. Gheddafi localizzato dai francesi a Sirte, la città natale del Rais, raid dei tornado britannici sul bunker. Ancora scontri tra gli alisti e ribelli, razzi sull'aeroporto di Tripoli, ospedale isolato, morti 100 pazienti ed è anche guerra di informazione tra le parti. Regioni e comuni in rivolta contro soppressione Italia, Alfano promette faremo correzioni, al TG3 il sindaco di Roma Alemanno. Trattativa continua sulla manovra, Maroni decisivo sarà l'incontro tra Berlusconi e Bossi, l'opposizione sono in lite su tutto. I calciatori scioperano, salta la prima giornata del campionato di Serie A, la Lega dice no ad un accordo ponte in extremis. La ripresa è a rischio, così il capo della Federal Reserve al convegno dei banchieri centrali e per le borse è una doccia fredda. Paura a New York con l'arrivo dell'uragano Irene, l'allarme di Obama, pericoloso, se serve bisogna evacuare. Il celeste, caro Parenzo, che abbiamo avuto ieri ospite della Zanzara. Devo dire che ci sono sempre più conferme che vengono da colleghi giornalisti, anche quelli dell'inchiesta che insieme a Repubblica ha pubblicato quell'articolo, del fatto che in realtà Formigoni, quelle cose su via Berlusconi prima di Natale abbiamo qualche possibilità di vincere le elezioni, e il caso Minetti peggio del caso Rubi, cioè ha fatto al centrodestra più danni del caso Rubi, quelle cose, dicevo, le ha dette veramente. D'altra parte noi non avevamo dubbi, oggi c'è anche un articolo sul Fatto Quotidiano da parte di uno dei testimoni che spiega esattamente come sono avvenute le cose, ma d'altra parte è normale che politici magari in libertà, in una situazione un po' più scanzonata, la sera dicano certe cose e facciano certe considerazioni, pare davanti ai giornalisti e poi la mattina dopo si svegliano e dicono: beh, l'ho fatta grossa. Forse c'è stata anche una telefonata. E insomma, ci correggiamo. I famosi off the records. Ma non sono in questo caso off the records, in questo caso sono in the records, nel senso. Beh no, nessuno la registra. Cioè, magari no, sono beh, off conversazioni... the records, ma sembra che sia stata proprio una conversazione davanti a dei giornalisti. Appunto. Per cui insomma non mi sembra una cosa. Eppure ci sono state le smentite da parte di Formigoni. Dicevo, Formigoni c'è una sorta però di culto della personalità, bisogna dirlo, il che è abbastanza normale quando si fa politica, cioè dire il carisma eccetera, però insomma a Rimini durante il meeting di CL si raggiunge l'apice di questo culto della personalità, chiamiamolo così per modo di dire, nei confronti di Formigoni. Vengono reclutati, lo uso proprio questa espressione, anche dei bambini. Sai che io ho fatto sempre le polemiche sui bambini, anche per quello che il Palabobis eccetera eccetera. Anche per Formigoni vengono reclutati dei bambini che cantano Formigoni, Formigoni. E che male c'è? Reclutati. Sentiamo. Formigoni, Formigoni, Formigoni, Formigoni. Il culto della personalità formigoniano a Rimini raggiunge livelli altissimi. C'è un cartonato di Formigoni, diversi cartonati di Formigoni, per esempio, dove praticamente fanno la spola tutti i protagonisti del meeting. Hi Press, ascolta la nostra musica. Yo Press. Yo, yo, yo Press. Ciao Roberto, c'è Lidia Bersani, digli qualcosa. Ciao Roberto, in bocca al lupo, buon lavoro. Caro Roberto, cerca di tenere duro, che è fondamentale, perché dietro di te vieni scemi. Roberto, ti vogliamo in Puglia. Al posto di Nicky. Per favore. Yo Press. Yo Press. You Press e You Presidente, questo è il sito proprio di Formigoni, e ci sono queste persone che vanno lì accanto al cartonato di Formigoni dicendo quello che avete sentito. E poi c'è un altro video pubblicato sempre su formigoni.it che ha come titolo Folla invisibilio a Rimini. Folla invisibilio a Rimini. Persona. Sentite. Il presidente, c'è solo un presidente. Un attimo di attenzione. Tutto normale, per carità, la politica si fa anche in questo modo, certo, insomma, la questione dei bambini è un po' controversa, e c'è un po' di culto della personalità, non ma c'è dubbio. Ma perché? Ma insomma, partiamo dal presupposto che il culto della personalità esiste solo nei regimi. Ma no, ma io non intendo in senso negativo culto della personalità. Ma no, cioè, allora non c'è proprio, io figurati non sono di Comunione e Liberazione, ma neanche lontanamente, sono più vicino, se vuoi, alle follie di Otelma, ma voglio dire, no, ma come è lì i bambini, è lì è un movimento carismatico come una liberazione, no? E quindi non sono mica lì col fucile a osannare Formigoni. No, perché anche sulla leadership di Formigoni poi ci sono discussioni all'interno della stessa CL. Bene, ascoltatori, 800 24 00 24, no, anzi, prima sentiamo Bersani. Lo scudo, quello fiscale, la gente lo vuole. Ecco perché viene proposto. Questo è vero. È inutile che i soloni mi spieghino che ci saranno delle difficoltà a far pagare i condonati che avevano portato illegalmente i soldi all'estero. Io so che la gente vuole questo, e questo noi dobbiamo farlo. E la tecnica ci pensiamo noi alla tecnica. Beh, alla tecnica ci pensiamo noi, uno prima dovrebbe capire se si può fare o no, non è che perché li vuole la gente vuole col forcone andare dietro agli scudati, allora bisogna farlo per forza. Questa mi sembra una logica un po' assurda. Una battuta su Montezemolo in giro per Gran Premi, sentiamo Bersani. Comunque no, di Montezemolo dirò questo, no, ma io non ho mai disturbato Montezemolo. No, ma ho colto due o tre battute. No, nel senso, lui che... A me se mi lasciano stare, io... Però, se mi vengono a dire il PD tace sulla manovra, io dico, scusa, in che parte del mondo eri nei giri dei Gran Premi? Cioè, in che parte del mondo eri? o se non con un po', magari anche così di sussiego, mi si viene a dire, se non proposte non praticabili, no, non permetterlo. Sempre Bersani, però c'è qui una divisione molto forte all'interno del Partito Democratico sullo sciopero, cioè aderire o no allo sciopero della CGIL del 6 settembre. Bersani dice presenti allo sciopero e ovunque contro la manovra, ma una parte del Partito Democratico non è molto d'accordo. E noi saremo presenti a tutte le iniziative di mobilitazione, di assemblea. Chi farà lo sciopero ci saremo, chi farà l'assemblea non so dove un sabato ci saremo, un'organizzazione artigiana farà, cioè capito, se protesti anche tu a casa Bersani viene con te, comunque manda una delegazione del partito, ovunque ci siano le proteste ci saremo anche noi. Questo è un tema che spaccherà il PD davvero, lo dividerà, a parte che Fioroni altri hanno già detto mai in piazza con va bene PDL. Domenico da Roma, buonasera, sì, l'ha detto anche Fioroni. Buonasera, buonasera. Altri, io nel frattempo ho quasi attraversato tutto lo stivale ascoltandovi. Comunque, vabbè, c'è da aspettare ogni tanto. No, scusa. No, per carità, ma certo, se queste sono le premesse per, un, per cui debba ripartire, cioè Formigoni, il Divino, Sciliponi, che c'entra, scusa, Compagnia Bella, scusi, c'entra, cosa c'entra? No, ma c'entra perché, guardi, mica noi dobbiamo ospitare per forza le persone che fanno ripartire l'Italia, abbia pazienza, cioè è una trasmissione radiofonica, però non è la Camera dei Deputati, guardi, questa qua. Guardi che lei entra nelle macchine e nelle case degli italiani. E allora? Appunto. E allora lo spiego io allora. Visto che lei sa che comunque dalla prossima settimana rientrano più di 20 milioni di persone a casa. Allora? C'è anche tanta gente che vorrebbe sì sentire queste cose simpatiche, però le garantisco una cosa, tanto per dire, no, il campionato non ricomincia perché ci sono 22 cretini appresso a un pallone che non vogliono pagare una tassa, cioè, ma stiamo scherzando? Sì, non è solo per questo, comunque non è solo per questo, ci sono altre questioni che riguardano il ruolo dei presidenti, eccetera, eccetera. A me mi sembra il paese dei balocchi. Sì, però Domenico, quasi, io la capisco, lei voleva tornare questa fine settimana a guardare il pallone, invece ci sono persone che scioperano, perché poi ma al di là dello show, no, è facile dire questo, Cruciani. Non ho capito che vuole dire, scusami. Allora, io spiego io. Lei che vuole spiegare. Scusi, lei ha parlato, non abbiamo capito niente, questo è il problema. Lei mi dice che il discorso che viene fatto da Formigoni potrebbe essere un'idea di, ma un'idea di che cosa? Che cosa sta dicendo? Lo dica lei, di che cosa? Ma io non ho detto nulla del genere, ma di che stiamo parlando? Secondo lei Formigoni porta dell'aria buona in Italia? Ma che insomma, non stavamo parlando di questo, cioè se vogliamo... Allora di cosa stiamo parlando? Scusa. Ma che vuol dire? Abbiamo fatto. Ma come che vuol dire? Vabbè, ma Parenzo, spiegalo tu, io non ce la faccio fa più. Satira, no, abbia pazienza, lei fa satira politica, guardi che lei è molto abile, però lei fa satira politica nei momenti meno appropriati. Nei momenti meno appropriati. E chi lo decide qual è il momento appropriato? Scusi. Guardi che. Chi lo decide? Scusi. Lo decide il mondo, la vita. La vita, il mondo, se lei, sì. Se la vita che lei passa tutti i giorni. Benissimo. Allora, guardi, se la prossima settimana, se dopo domani non comincia il campionato, lei sa quanto indotto c'è? Questo è passato campionato. Da Formigoni al campionato, ma sono roba da... No, ma a me, che scusi, mica è solo... Io, guardi, che ho premesso, volevo parlare del campionato. Cioè, per quale motivo questo paese non è capace mai di trovare una piazione? Perché per partito preso... È partita? Sì, è partita. No, non è partita, guardi. Sì, è partita, diciamo noi. Vabbè, questo... È partita. Facciamo stare un attimo. Domenico, accosti un attimo. Dopo un attimo, la prendo e la porterò via velocemente. È un attimo. No, Parenzo, guardi, a me le mi piace molto, perché visto l'ultimo servizio di La 7, comincio ad apprezzarla molto. Però tranquillo. L'ambulanza arriva comunque. Prego? No, dico che comunque c'è un po' di confusione nel ragionamento, però va bene. No, io volevo dire sommi capi. Sì. Visto che intervengono nei discorsi persone molto autorevoli. Stia tranquillo, Ecco, io sono serenissimo. Perché quando arrivano poi i due con la... Io sono accostato. 546° chilometro dell'autostrada del Sole. Benissimo. Capito, signori? 546. Sì, bene. Avvertiamo subito. Un attimo solo, avvertiamo subito, non si preoccupi, stia lì. Che carreggiata è, nord o sud? No, direzione nord. Direzione nord, sia fermo. Chi si muove? Sì, no, dico, se vengono due in camice bianca, non si preoccupi. Tanto, sì, allora guardi, sì, Luciani, lei veramente è una persona abilissima e anche simpatica. C'è la borsa però, stia tranquillo, borsa, allora, c'è la borsa, aspetti un attimo. Va tutto bene. È arrivata l'ambulanza? Io sto qui tranquillo, però non è arrivata. C'è un bel sole in tramonto. E... Non si preoccupi. No, ma la temperatura sta calando. Ma in quindi... autostrada è sempre così, ci vuole sempre un po' di tempo. Il problema è che l'autogrill è un po' distante, per cui mi sarei preso anche un aperitivo, ma purtroppo. Beh, no, è meglio non bere. Glielo offrono quando arriva lì. Ma guardi, io adesso al di là dell'aperitivo, visto, sì, potrei magari dire, esprimere il mio concetto. Ma lei è da dieci minuti che sta parlando, scusi, no, Domenico. Però mi faccia abbia pazienza. Abbia pazienza lei, comunque, va bene, d'accordo. Vabbè, insomma, il signor... No, ma è giusto per attendere un attimo sempre questa ambulanza. Io sento da lontano. 246 e 300. Cioè, no, 246. No, 546 e virgola 3. Ma lei è fermo sulla carreggiata o nell'autogrill? Fermo su una bella piazzola con il sole al tramonto, guardi. Non si muova, no, per carità! No, magari quando arrivano, gli infermieri vestiti di bianco, lei non tira fuori la solita cosa, formigoni, poi calciatori, aggrava la situazione lì, no? No, ma è buona. Ci sono anche delle persone qui vicino con dei bambini, figurati. Ecco, questo stia attento, ci sono i bambini. È serena. La situazione è serena. Comunque, quella che non prevedo io fra una settimana, 10 giorni. Che succede? Scusi, quando? Che succede? Stasera passiamo dal Mago Telma a Domenico da Roma. Abbiate pazienza, mica loro. Noi abbiamo pazienza, no, siamo qui. L'apocalisse, tra 10 giorni l'apocalisse. Guardi che i grandi artisti sono quelli di strada. E dunque lei è un grande artista, insomma, no, si definirebbe un grande artista. No, io non sono un busker, scusi. No, ma cosa c'entra questi? Non seguo più. Non mi segue più perché evidentemente ha perso anche lei le staffe. Ecco. Allora, il discorso qual è? Per i famosi 22 cretini che vanno appresso a un pallone, sì, si sta fermando, sì ancora, perché è importante, si sta fermando l'Italia. Sì, no, veramente non si ferma l'Italia, perché si ferma il campionato, non è che si ferma l'Italia. Cioè, non è no, c'è un indotto interessante, Cruciani. Ho capito, ma non è tutto sospeso per sempre, per una domenica. Comunque, ma lo sa quanti danni ci sono? Sì. Intorno ai 25 milioni di euro. Vabbè, allora? E allora questo fa sì che il conto si inasprisca. Sì. Cioè, non solo, che evidentemente questo governo, al di là di Calderoli, che l'unica cosa che ha detto giusta è quella di dargli 22 calci nel culo a questi signori, sì, ecco, che è l'unica cosa positiva che ha detto, e di fargli pagare le tasse. Bene. Questa è la realtà. Se le paghiamo tutti, sia tranquillo che anche lei vive meglio. Va bene. Questo è un mio consiglio, Poi resti lì, Domenico. Io comunque sono sempre qui, al sempre qui. Fra poco arrivano, non si preoccupi. Ma magari, guardi, io so. Beh, insomma, adesso magari, poi quando magari la prendono. Un bel weekend all'ospedale. Quando la prendono e se dovessero avvicinarsi e magari invitarla sul lettino, non si preoccupi, è un controllo. Perché c'è anche un lettino? Beh, c'è sì, anche una camicia bianca che si lega, che si lega dietro. Ah, ecco. Ha capito? Ma che vengono solo uomini o ci sono anche donne infermiere? Perché quello è importante. Non lo so, non lo so come sono le disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare del personale che si occupa delle situazioni un po' gravi dal punto di vista mentale. Comunque. Guardi che conta molto. Sì, beh, certo, ma lo dice a me. Conta sì. Domenico, grazie. A lei, buonasera. Ortelio da Roma. Buonasera, buonasera Ortelio. Buonasera Lorenzo. Come Hotel, ma quasi Ortelio con la O. Vabbè, non c'entra niente, insomma. Comunque. Quello in realtà sarebbe il cognome, comunque va bene uguale. Qual è il cognome, scusi? È quello che avete detto in diretta. Cioè Ortelio? Esatto. E allora perché mi hanno scritto Ortelio? Perché mi hanno scritto Ortelio qua? Come si chiama lei di nome? Francesco da Roma, allora. Mi hanno scritto Ortelio. Se mi permettete, volevo ritornare alla... Mi sembrava strano, Ortelio. Lei si è presentato come Ortelio, però, ai centralini, ci ha fregato. Sì, no, non c'è problema. Non si vabbè, comunque... Caso non è... Ortelio, alla consacra. No, non è... Certo, comunque, per quello che devo dire, non credo che possa avere problemi, anzi. Volevo tornare, appunto, alla notizia con la quale avete aperto, sulla, sulla giacenza di carta igienica che c'è. Beh sì, grande scoop. Deposito, carta igienica, la carta igienica a go-go nei a magazzini del Senato, una cosa pazzesca. Cioè, se uno apre i magazzini del Senato viene invaso dalla quantità di carta igienica che trova, tutta per i senatori. Fino al 2030 ce ne potrebbe, una cosa pazzesca. E la cosa che volevo appunto condividere con voi è il pensiero che di associazione che ho fatto. Che associazione ha fatto? No, adesso le dico molto facili le associazioni che si possono fare in questo caso. No, no, purtroppo non è tanto, cioè voglio dire, quello che io so è prassi consolidata nella scuola pubblica italiana, non mi consta, diciamo, direttamente perché non ho ancora il figlio che va a scuola, però quello che mi raccontano, i materiali di consumo, tra cui anche la suddetta carta igienica, è fornita dagli insegnanti o dagli alunni, no? Cioè, e quindi questo pensiero lei dice potrebbero utilizzare quella carta igienica per darla in giro ai genitori che hanno bisogno nelle scuole, eccetera, alle scuole che ne hanno bisogno. Sì, è che deve dire, Francesco, sì, può darsi una proposta che ci può stare, invece di far stazionare quella carta igienica. Poi perché c'è bisogno di comprare tutta quella carta igienica per il Senato? Probabilmente per un discorso di economia la cosa. Ma così dice il signor Cicolani. Ma no, ma esistono anche scusa. Comunque. Esistono anche? Il bidet. Cioè, non voglio entrare nel merito. Ho capito, ricerca. Ma adesso questo che c'entra? Uno va in bagno al Senato. Basta poca carta che in generale. Non ho capito, ma uno va al Senato, ma tu c'hai la carta igienica, non la usi, vai subito a fare il bidet. Ma adesso voglio entrare nello specifico, però se ti interessa, io la uso, ma uso ne consumo pochissimo e poi uno ci si lava. Che mi fa schifo anche l'idea che ci sia della gente che usa solo la carta e non si lava. Sarebbe vergognoso, questo sì, che uno usa solo la carta. Tu ti lavi e quando ti lavi ti sporchi le mani, cosa fai? Usi solo la carta? Vabbè, solo entriamo in questi, è una cosa terrificante. Ma se tu ti sporchi le mani, te le laverai oppure sfreghi solo con la carta? Sei uno zozzone. Se ti sporchi le mani e ti sfreghi solo le mani con la carta, sei uno zozzone. Questo è il punto. Va bene, grazie. Comunque accogliamo la proposta del signor Francesco da Roma, Francesco Ortedio da Roma, il quale dice tutta quella carta igienica data alle scuole che ne hanno bisogno. È spesso, una bella proposta. Spesso i genitori se la devono portare da soli da casa per i figli. Giuseppe da Siracusa, buonasera. Buonasera a lei, Crociani, grazie per avermi richiamato. Anche io purtroppo ho sentito le parole di quell'ascoltatore che si è fermato in autostrada e in buona parte diciamo che sono d'accordo, anche se lui fa confusione, però grosso modo le cose che probabilmente che abbiamo in testa tutti gli italiani o buona parte sono queste qua. La cosa che volevo dirle è sul fatto di Scivipoti, voi spesso lo intervistate, lo fate sentire in trasmissione. Sì. La cosa che a me dispiace è che queste persone, che anzi forse anche stasera sono... perché dobbiamo un po' riparare a quello che è successo ieri. Però il discorso è queste persone che secondo me sono completamente inutili per il nostro paese. Vabbè, adesso inutili, Giuseppe. Da un lato farebbero anche ridere. Il discorso è che poi quando poi io mi ricordo che probabilmente lo manterremo a vita soltanto perché ha fatto soltanto una legislatura. Queste sono cose che fanno rizzare i capelli. E vabbè, a lei rizzano i capelli, ad altri... Perché lei capisce, lei sa benissimo, sì, e sicuramente sarà d'accordo, se in questo momento dovesse cadere il governo e metà del Parlamento, probabilmente gente non eletta direttamente, ma è stata messa lì nel listino, e probabilmente domani non verrebbero più rieletti, sì, e quindi non prenderebbero questo famoso vitalizio, questo è il motivo per cui non cade il governo. La questione del vitalizio spesso è centrale. Va bene, grazie, grazie signor Giuseppe. Allora, Bastiano da Foggia, buonasera. Buonasera, signor dottor Cruciani, buonasera. Sì, buonasera, signor Bastiano. Io sono sì, abbassi la radio però, o spenga la radio, altrimenti la sentiamo due volte e non è simpatico. Allora, io sono un grandissimo appassionato ascoltatore della Zanzara. Sono un cieco e come tanti ciechi noi vi seguiamo tutte le sere. Quando la sera non riesco ad ascoltarvi, io vi ascolto a mezzanotte. Bene, grazie. Volevo dare alcuni miei piccoli pareri, però mi faccia finire. Ho capito, basta che non no, ci metta tre ore. Breve. Allora, la Zanzara, che è una eccellente trasmissione condotta da un eccellente direttorissimo. Dovrebbe migliorare tenendo presente che è uno scempio presentare a persone che fanno discorsi seri quella famosa l'ambulanza, è uno schifo ed è una cosa irriverente verso persone che intelligentemente vogliono esprimere un parere e voi li bloccate con questa cosa molto molto irregolare, irriverente. Irregolare non lo so, irriverente, irriverente e diseducativa. Secondo, ma è diseducativa, perché è diseducativa? Scusi, il signor Parenzo vi sta rovinando la trasmissione. In 24 ore io ho notato che tre persone vi hanno chiuso il telefono in faccia. La signora ha mandato a fanculo il signor Parenzo. Calma. Poi ci riposi, poi c'è. Lei non deve avallare, questa situazione. Ma quale situazione? Non è la Camera dei Deputati questa. Signor Parenzo, mettete la signora Begin fissa la sera. Vabbè. E vedrete che l'Italia andrà meglio. Beh, adesso insomma. Parenzo sta facendo lo scostumato. Queste risate da cretino, come ha detto Scilipoti, va bene, conferma il fatto che la Zanzara sta andando in decadenza. Decadenza, grande, una grande decadenza. Cambiate Parenzo con la signora Begin. Va bene, Bastiano. Secondo, terzo, quarto. Perché la sera i bambini che vanno in macchina non devono sentire le vostre parolacce e quello che dice ma Parenzo. Ma i bambini in teoria non ascoltano la Zanzara, abbia pazienza. Appresso, togliete le parolacce è che vi dice alla fine della trasmissione. Sgarbi, no, ma non ci Sgarbi, ma non ci penso, nemmeno lontanamente, ma non ci penso. Deve mettere la signora Begin, la signora Iva Zanicchi, ci deve mettere un po' di personaggi che tengono il cuore allegro e voi rendete un po' di pace in Italia con Parenzo e con tutti questi personaggi che dicono parolacce e dicono stronzate grosse. Poi l'Italia la rovinate e si rovina anche la Zanzara. Bene. Voi siete degli lei è un elegantissimo, va bene, compacchione. Sì. Quando qualche sera fa un ascoltatore di Roma le ha detto: signor Cruciani, i capitali che sono orientati all'estero con lo scudo fiscale di 5 centesimi, va bene, diciamo che 5 centesimi, va bene, non è che vengono ritassati. 5%, va bene, non è che vengono ritassati. Beh, come no? Siccome è rientrato un grosso patrimonio finanziario. Ma che c'entra adesso questo? Scusi. Questo non è un ingombro, è una ricchezza che è rientrata in Italia e quindi come tassano i palazzi devono tassare anche queste ingenti somme che sono tornate. Allora, indipendentemente. Allora è d'accordo con Parenzo. È d'accordo con Parenzo. Lei quando quel signore lo ha incalzato ha detto: lei scende troppo nel tecnicismo, scenda anche lei nel tecnicismo. Va bene, scenderò nel tecnicismo. Comunque, signor Cruciani, lei Bastiano, si fermi un attimo, ho capito che lei su questo è d'accordo con Parenzo. Grazie, buonasera. 800 24 00 24, certo che il Partito Democratico, caro Parenzo, è un po' nei guai su questa storia di Penati, perché naturalmente il punto è che Bersani continua a dire, il segretario del partito continua a dire, per esempio, Penati si è dimesso, lo ha detto ieri, ma non è questo il punto. Si è dimesso da che cosa? Non è che si è dimesso dalla regione, si è dimesso dalle cariche di partito. Il nostro atteggiamento, restando consigliere regionale, il nostro atteggiamento è diverso in questi casi rispetto agli altri partiti. In questo caso, francamente, la differenza non si vede moltissimo. E nel rispetto della presunzione di innocenza, che non vogliamo dimenticare, però faccia un passo indietro per non mettere in imbarazzo l'istituzione, il partito nel quale si trova. E quindi Penati, per esempio, ha fatto il passo indietro rispetto ai incarichi istituzionali e incarichi di partito. Non capisco se incalza Penati a fare un altro passo indietro oppure era un ragionamento che riguardava abbiamo detto a Penati di fare un passo indietro. Vabbè, la domanda da fare è se hanno intenzione di ricandidare Penati alle prossime. Ma quello penso proprio di no. Il presidente della Toscana Rossi dice, per esempio, lasci la regione e taccia. Ecco. Va bene, abbiamo l'inventore, lo sai di che cosa, caro Parenzo? No. Del giro ciclistico della Padania. Ah, mancava. Il signor Michelino Davico, buonasera. Buonasera, come buonasera sta, sottosegretario, senatore? È appassionato di ciclismo in questo caso. È il sottosegretario della Lega Nord, il sottosegretario agli interni e dunque sottosegretario di Maroni, possiamo dirlo, no, signor Davico? Sì, certo. Senta una cosa, ma c'era bisogno di istituire il Giro della Padania? C'era bisogno. Ma intanto non si chiama il Giro della Padania, ma il Giro di Padania. E che differenza c'è, scusi? Mica si chiama Giro dell'Italia o Giro della Francia, si chiama Giro d'Italia. Giro d'Italia, Giro di Padania, Giro della Padania, Giro la stessa di cosa. Spagna, Giro... Ecco, ma perché esiste la Padania, secondo lei? Questa è la prima domanda, perché se una cosa esiste, uno fa il Giro d'Italia, esiste l'Italia. Lei è d'accordo che esiste l'Italia, no? Certo. Esiste l'Italia. E la Padania esiste? Esistono dei territori, esistono delle regioni, esistono delle regioni dichiarate, esiste l'Unigiana, esistono le Langhe, esistono... appunto, esistono le Langhe, quelle esistono. Esistono tanti territori. Ho capito, ma la Padania esiste o no? Siccome è stata evocata recentemente da Bossi, come entità territoriale esiste la Padania? È un interrogativo che mi pongo da un sacco di tempo. La Padania è un territorio fatto da altri territori, come tutti i territori più in generale. Ma lei è un'invenzione geografica, è un'invenzione vostra, politica. È un'invenzione giusto, soprattutto ciclistica. Vabbè, in questo caso, sportiva. In questo caso. Perché si tratta di questo. Sento l'imbarazzo del sottosegretario agli interni. No, in questo caso non sono sottosegretario, sono appassionato di ciclismo. Però, scusi, signor Davico, la domanda è questa. Recentemente Bossi, poi parliamo della questione di ciclismo, ha detto noi abbiamo sempre la Padania come obiettivo. Anche il suo è l'obiettivo, è quello dell'indipendenza della Padania? Io ho degli obiettivi politici, degli obiettivi personali, degli obiettivi sportivi. E quelli personali caso, quali sono? Quelli personali. Quelli personali sono quelli che mi hanno portato ad essere eletto in prima... nella mia città, poi nel mio territorio, poi in Parlamento come in rappresentanza della mia Vabbè, della mia ma gente. La domanda è questa, lei vuole la Padania indipendente o no? Questa è la domanda, signor Davico. L'indipendenza è un sogno di tutti, un sogno di tanti. Beh, io abito a nord, non sono per niente, io abito a Milano da tanti anni, pur non essendo, diciamo, di origine milanese, abito a Milano da tanti anni, francamente sogno di tanti, forse di quanti è? Non è quantificabile questa cosa qua, cioè di chi è il sogno? E anche il suo sogno? È il sogno di tanti, cioè sono sogni della storia, l'indipendenza, la libertà, la democrazia. Ma prima o poi ci si arriverà? Sono tanti sogni. La storia dell'uomo è verso le cose belle, verso i valori, verso i grandi obiettivi. Chi ha il coraggio di sognare ha il coraggio poi anche di costruire qualche cosa. Dunque chi anche il suo obiettivo. Quindi la successione. Di sognare, sì, per carità, vive, può vivere pure bene, aspetta che la storia comunque faccia bella. La sua parte. Dunque il suo sogno, come quello di tante persone, dice lei, è l'indipendenza della Padania, diciamo la verità. Il mio sogno è la libertà delle persone. Vabbè, quello di tutti. Questo vale per tutti. Ma che problema c'è? È evidente che sia... Dare la propria convinzione. In questo caso si tratta di una corsa ciclistica, c'è una cosa molto più semplice, molto no, più ma certo, banale, per carità. Più per la terra, fatta per gareggiare, fatta per fare no, ma è evidente che il leghista... Un attimo solo, lei ha attaccato subito con la corsa ciclistica. Parenzo, che devi dire? No, dico che è evidente che anche il sottosegretario agli interni della Lega, cioè tutti i leghisti, tutti i dirigenti, dal primo all'ultimo dirigente militante, non solo hanno come obiettivo l'indipendenza della Padania, perché è sempre l'articolo 1 del loro statuto. Cioè, quindi da Maroni, ministro degli interni, sino all'ultimo militante di Calolzio Corte, tutti vogliono l'indipendenza della Padania. È scritto nello statuto, quando uno piglia la tessera, lotta per... D'accordo, però vorrei capire al signor Davico, e poi parliamo davvero di ciclismo, però mi deve dare una risposta concreta, non le chiacchiere. Lei è una persona molto concreta come uomo del nord. L'indipendenza è oggi, vista la situazione, quello che si è creato, è una cosa ancora più, come dire, ancora più vicina o comunque ancora più urgente o no? Guardi, stiamo lavorando per il successo del paese intero. Non mi pare che ci stiamo facendo un discorso in questi ultimi tempi. L'ha detto anche Bossi, non è che l'ho detto io, ha detto il vostro capo. Ci sono grandi discorsi, grandi prospettive, ci sono aspetti invece, momenti più concreti, più pratici. Le manovre, le crisi economiche ci costringono alla concretezza. Ma la separazione, siccome lei ha fatto il Giro della Padania, c'è il Giro d'Italia, dunque c'è già una separazione in atto. C'è il Giro di Lombardia, c'è il Giro del Veneto, c'è il Giro della Sicilia, non è che tutti i giri ciclistici devono portare alla separazione. Ma lei se la auspica la separazione dell'Italia? Io mi auspico la libertà delle persone. Ancora questa libertà delle persone? Ma ciascuna persona... Ma perché è così timido su questo tema? Punta a grandi valori, a grandi ideali. Questo è l'aspetto. No, ma non capisco, sottosegretario, perché è timido... Il giro ciclistico di Padania punta alla valorizzazione dei territori, di più territori, dire. Ma questo lo sappiamo. Quello va benissimo. Quello va benissimo. La cosa ha parlato di secessione. Colline, guardi, ci sono veramente tante cose. Ma questo va tutto benissimo, è encomiabile, il ciclismo è uno sport meraviglioso. Sì. Allora, del calcio. È meraviglioso. Dopodiché no, ma però no, scusi, perché? Siccome lei è qui, se ci possiamo permettere, pure non è che siamo qui blindati a parlare solo di ciclismo, ci possiamo permettere di chiederle, ma la separazione è un suo obiettivo, sì o no, del signor Michelino Davico, sottosegretario della Lega Nord, come obiettivo ultimo, la separazione dell'Italia, un suo obiettivo sì o no? Mi dica una risposta sì o no e poi abbiamo chiuso. Io punto alla realizzazione della grande corsa. Questo è questa grande corsa. Vabbè, adesso parliamo della grande stiamo corsa. Stiamo parlando di corsa. No, ma io le chiedo una cosa sulla separazione dell'Italia e non vuole rispondere. Vabbè, pazienza, non mi vuole rispondere sulla separazione dell'Italia. Sono discorsi abbastanza datati, abbastanza superati. Ma che datati? Ha parlato Bossi qualche giorno fa, ma quali datati? Assolutamente. Quindi Bossi è datato, il titolo è Bossi è datato. Separazione è un discorso datato. Non questa è la notizia. La separazione nessuno l'ha mai accennata. Noi nessuno stiamo parlando di un discorso, noi stiamo parlando di un discorso di libertà, di valorizzazione dei territori. Benissimo, di uomini, no, ma questa qua è una risposta. Di economie, guardi, di culture. Dunque, di la Padania è in realtà una questo, cosa. Il nostro è un paese, l'Italia è un paese sì. di grandi differenze, di grandi valori, di grandi popoli, dal nord al sud, da regione a regione. All'interno delle regioni ci sono ancora altre micro realtà, all'interno di queste micro realtà ci d'accordo, sono però, signor Davico, dialetti, sfumature, eccetera. Quindi va benissimo, insieme, la valorizzazione insieme questo meraviglioso puzzle è un obiettivo. Però lei ci sta dicendo che la Padania non è la Padania indipendente e libera, non è un suo obiettivo, lei vede come un obiettivo lontano. Sto dicendo che organizzo una corsa ciclistica. Vabbè. Questo lo sappiamo. Allora, parliamo finalmente di questa corsa ciclistica. Il sindaco di Piacenza si è arrabbiato moltissimo il segretario di Rifondazione Comunista, e questo dice vabbè, dicendo che è una corsa che addirittura ha un profumo di fascismo perché ricorda le cose organizzate dai partiti. Vabbè, esagerato. E ha chiamato in causa la Federazione Ciclistica Italiana perché dice come si permette di scagli la prima pietra che ma anche il sindaco di Piacenza però ha detto che non farà passare la corsa da lì. Come fate? Cambiate il percorso? Mica solo lui, il sindaco di Piacenza ha manifestato una serie di situazioni oggettive legate alla sicurezza. No, ha detto che è una buffonata, strade. Non ha detto solo questo, ha detto che è una buffonata. Queste sono sue valutazioni, no, queste sono valutazioni che ha lasciato sul suo sito web e ai giornali. A noi ha comunicato che ci sono delle situazioni legate alla viabilità, agli incroci, alla tangenziale, al giorno. D'accordo, però poi ha detto che è una buffonata. Lasciamo perdere la questione della viabilità. Mica solo lui, avessimo solo il problema del sindaco di Piacenza. Noi attraversiamo 6 regioni, coinvolgiamo in questo progetto, in questo progetto 170 comuni, di problemi, di una pagliacciata, così l'ha definita. Una pagliacciata. Vabbè, guardi, io ritengo una pagliacciata il calcio, ognuno ritiene una pagliacciata ciò che scusi, ma è una manifestazione. Io ritengo che la più grande pagliacciata di questo paese sia il calcio. Mi pare che, per cui il calcio, però, questo sciopero, i calciatori cosa farebbe? Può essere una visione di parte, non oso. Non no, oso per carità, ma ai calciatori cosa farebbe lei, Davico? Farei pagare le tasse di solidarietà che devono pagare. Questi scioperano però, possiamo anche vivere senza calcio, non è che senza calcio la nostra vita è diversa. Oggi abbiamo esigenze molto più complesse che non quella di vedere la partita di calcio. Ma è vero o no? Deve arrivare a fine del mese, quindi sì, vabbè, questo lo dicono tutti. Non è una partita in più, una partita in meno. Cioè, senta Davico, però la cosa che voglio sapere è, secondo lei, questo giro è organizzato o no dal vostro partito? Perché un po' il punto è questo. È un giro organizzato da un partito politico. No, non è un giro organizzato da un partito politico, è un giro organizzato da un'associazione sportiva dilettantistica. E lei il creatore? No, io sono presidente di un'associazione sportiva dilettantistica, altri sono presidenti di altre associazioni sportive dilettantistiche. Sì. Io sono presidente di un'associazione sportiva dilettantistica. Ho visto Renzo Bossi con la maglietta Giro di Padania, cioè è un giro organizzato da... Anch'io la maglietta Giro d'Italia che ho comprato queste sì, però adesso non giriamo intorno a questa cosa qua. No, non è che mettendo una maglietta Giro d'Italia io sia l'ideatore del Giro d'Italia o sia ho capito. Ma è chiaro che è una manifestazione di partito, ma non c'è nulla di male. È come se io, Cruciani, organizzassimo una biciclettata della Zanzara. Dice, non è una roba ufficiale, è una roba della Zanzara. Lei fa la roba della Padania, ma va benissimo. Organizzata in prevalenza, sì, da un'associazione sportiva, ma insomma con l'imprimatur. Fa riferimento alla Lega, c'è poco da fare. Io io sono della Lega e lo dico molto chiaramente, molto serenamente. No, però, ma lei che sia della Lega non c'è dubbio. Il giro di Pagani organizzato da un'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Monviso Venezia. Sì, ho capito, ma è un giro. La Federazione Ciclistica Italiana, quindi guarda, riconosciamo anche la Federazione Ciclistica Italiana, e che ha inserito questa gara nel calendario internazionale che ha seguito. E vabbè, di qui la polemica di alcuni. L'UCI è iscritta e nel calendario europeo ha iscritto anche questa gara. La gara dal punto di vista sportivo partirà il 6 settembre da una società ciclistica che si chiama Alfredo Binda, che è stata fondata e che opera dal 1929, quindi molto prima che ne esistesse la Lega, prima. D'accordo, però voglio dire, è chiaro che è un giro organizzato attraverso o comunque con l'imprimatur, col timbro di un partito politico, che è quello della Lega Nord, non c'è dubbio su questo. Ma non vuol dire niente. Sa chi è il presidente del Milan? Un politico italiano. Vabbè, ma non è la stessa cosa. Abbiamo la pubblicità. Il Milan faccia politica. Non è la stessa cosa. Torniamo subito. No, non è la stessa cosa. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. Eccoci qui, questa è la zanzara. Non fare così, abbiamo un sottosegretario all'interno. Il collegamento, signor Michelino Davico. La canti anche lei con noi? Lei canta ogni tanto in qualche festa, signor Davico? Io sono abbastanza stonato, guarda. È stonatissimo. Beh, ma guardi, qui le parole sono molto semplici. Qui le parole sono quasi essenziali, direi. Hai sbagliato adesso, però. Il finale l'hai sbagliato. È complicatissimo, è solo onomatopeiche, bellissimo. Però. Se ci pensi, sono parole, sono onomatopeiche, è un genio Pippo Franco. Quello che sia un genio non sono c'è dubbio. Sono delle parole onomatopeiche. Un po' di cultura, faccio onomatopeiche. Senta, lei spera e sogna un giorno che il Giro della Padania, caro Davico, di cui lei è uno dei promotori, diciamo così, sia diciamo il giro di un paese libero, indipendente. Il Giro di Padania sogno che diventi una grande corsa tappe. L'abbiamo collocata in un momento particolare del calendario, a 15 giorni dal campionato del mondo, per cui verrà usata come gara di selezione per la nazionale italiana. Ma no, che cosa sogna in un futuro? Che sia magari il giro di un paese come il Giro d'Italia? Di una nazione a sé. Io sogno che tutti possano andare in bicicletta per stare meglio e che riusciamo ad avere meno macchine sulle strade e meno macchine nelle città, perché ci fanno morire tutti intossicati. Vabbè, adesso questo non c'entra. Mi sarà ambientalista così. Va bene, grazie signor Davico, buona serata. Prego. Al sindaco di Piacenza come rispondiamo, che dice che è una buffonata, da qui non passa? Risponda qualcosa, dica qualcosa al sindaco di Piacenza. Si occupa di problemi più gravi, che ne so, le suggerisco io qualcosa da comunicare. Esatto, ci sono problemi più importanti. Poi alle elezioni, deve pensare alle elezioni, questa primavera vanno al voto a Piacenza, quindi pensi faccia le cose politiche, non le cose sportive, là ci svolge, sia sportivo. Dica con noi, Padania libera e indipendente. Padania libera e indipendente. E giro di Padania. Padania libera e indipendente e giro di Padania. Con grandi corridori. Ma viene anche a Borghezio in bicicletta? Non penso. Ma che c'entra Borghezio in bicicletta? Al massimo può venire. Guarda, il ciclismo è lo sport, è l'unico sport che non ha biglietto. Le strade sono libere per tutti. Chiunque può affacciarsi lungo le strade, lungo i bordi delle strade, nelle salite, nei punti chiave. Però è venuto fuori dal sottosegretario questa cosa, Padania libera e indipendente. Giustamente Parenzo spingeva un po', dica Padania indipendente. Sono slogan. Ma glielo dica a Bossi che sono. Ma io come sono slogan? Venite a vedere, venite al giro. Sarebbe bello, importante. Veniamo adesso. È una trasmissione, Zanzara. Che? Zanzara ciclistica. Lei ci vuole ammazzare, ci vuole distruggere. Ci vuole uccidere l'ascolto, signor Davico. Purtroppo le zanzare hanno finito sul parabrezza dell'automobile tante volte. Speriamo di no, abbia pazienza. Nel nostro caso, speriamo di no. Grazie. Fare biciclette è diverso. Quindi torniamo al discorso. Ma lei è maroniano? Lei è maroniano di ferro, mi sa. Uno di voi. No, Sì, ma è maroniano un po', lei sì, molto però, maroniano. Io sono della Lega. Sì, la lo Lega so. Ma di tante persone. Ma lei le fa le pernacchie come Bossi? No, non le faccio. Non le fa le pernacchie. Dico meglio? Però ecco, giro molto, guarda. Attenzione, scusi un attimo, lo dico, c'è una cosa. Che è successo? Lo riconosce questa qua, la pernacchia di Bossi? Ogni tanto no, arriva. Non ha sentito bene. Eccola qua, gliela faccio sentire bene. Una delle tante pernacchie, eccetera. Vabbè, ma Bossi ormai si esprime così, che dobbiamo fare? Davico? Bossi ha cambiato il modo di comunicare della politica di questo paese, l'ha resa più, anche più umana. Più umana, dunque le pernacchie sono più umane, lei dice. Ma tante volte le capisce meglio di tanti discorsi. Ah, con le pernacchie, con i diti medi, con le pernacchie, i diti medi, le scoregge dell'umanità, eccetera, si capisce meglio. Sì, questo è vero, diciamo, sono più dirette, che siano più dirette non c'è dubbio. Purtroppo è così. Cioè dire stronzo a Casini, per esempio, si capisce meglio quello che pensa una persona. È abbastanza immediato, sì, diciamo. Ne facciamo di peggio, guardi, al bar o quando ci vediamo per le strade, magari ci facciamo di peggio senza essere in politica. Quindi, appunto, dico. Lei dice una cosa, ci sta, lei dice, ci sta. A volte ci sta. Ci sta. Le scoregge, le scoregge no, ancora no. Però, perché... c'era chi proponeva regimi dittatoriali, era molto peggio. Vabbè, adesso non è che l'alternativa siano le scoregge. Ci sarà una via di mezzo comunque a Rutto, no? C'era chi ci voleva far diventare fascisti, nazisti, chi voleva far diventare... No, ma scusi, sottosegretario, io non vorrei che però in questa evoluzione della parola, della Lega, un domani si arrivasse, come dire, un intervento, allora quando arriverà il dividendo della Padania e parte un rutto? Cioè, secondo me si potrebbe arrivare ormai anche a questo, no? Questo. Speriamo e lavoriamo tutti perché ci sia un clima, una società migliore. Anche un giro ciclistico, perché... Un giro ciclistico, guardi, ci sono ragazzi straordinari che amano ancora lo sappiamo, faticare per vincere. Vabbè. Anche secondo lei Casini è uno stronzo, no, per capire? Casini fa la sua parte politica. Ah, questo non c'è dubbio. Ecco, detto così. Detto così. Sono i cittadini. Vabbè, l'abbiamo persa. Che vuole dire, Davico? No, non abbiamo parlato di una cosa ancora. Di cosa? Scusa. Del giro ciclistico. Ah, beh. Non l'ha mai parlato. Non ne volete parlare. Di quello, ha parlato del giro ciclistico della Padania. Cioè, va bene, grazie. Se non ne volete parlare, però venite a vederlo. Bene, grazie. Coinvolgiamo 25 squadre di tutto il mondo. Sì, lo sappiamo. Grazie. Durante la pubblicità ne parliamo. Eccoci qui. Intanto Maroni rivela che Bossi è caduto prendendo una scatola di sigari e ha capito, sempre Maroni che parla, che il fumo fa male. Questa è la rivelazione del ministro sulla frattura al gomito del senatur. Ma perché fuma di notte? Ma che ne so io, non so quando l'ha preso. Questa è la versione, diciamo, di... Ancora con ste pernacchie, ma è... Vabbè, Franco da Bari. Buonasera. Dica. Senta, era un po' di tempo che volevo telefonare per dirle, sì, per darle un consiglio che può sembrare di tipo tecnico, ma sì, poi di fatto non lo è. E cioè quello di evitare di parlare con la sua voce su chi parla al telefono, perché proprio necessariamente lei ha una voce più alta e quindi non fa sentire quello che dicono gli altri, ma di fatto poi prevarica l'ascoltatore. Beh, ma questo qua è fatto apposta, però, Franco, mi scusi, è quando qualcuno sta dicendo qualcosa. Infatti, poi ho capito che le lo fa per prevaricare. Ma no, che per prevaricare? Che però, per interrompere, come... punto. Tra interrompere e prevaricare ci sono. Se lei ora non mi interrompe per un minuto, io poi l'ascolto. Sì, però tra prevaricare e interrompere ci sono due cose molto diverse. Comunque. Vabbè, però io le volevo dire un'altra cosa. Poi ieri è successo che ho sentito una telefonata dell'onorevole Malanna che l'ha maltrattata a lei. Veramente non mi ha maltrattato, ha detto delle cose. Si vada a risentire la telefonata. Vabbè, mi ha maltrattato, decide lei che mi ha maltrattato. Benissimo, va bene. Senta, io comunque non alzerò la voce. Ma non può anche non alzarla, a me non me ne frega niente se la alzo o no. Se lei usa la cortesia di farmi dire quello che voglio dire, dica. Altrimenti me lo dica subito, io chiudo. Va bene, dica, avanti. Allora, le stavo dicendo, l'onorevole Malanna l'ha maltrattata, l'ha tirata, proprio l'ha tirata per le orecchie. Lei si è impaurito perché si è reso conto a un certo punto ce l'aveva fatta un po', come si dice, le parti lì e fuori dal palco. Ma una paura quindi, terribile. Questo mi ha fatto pensare che voi effettivamente lei fa un po' lo spadaccino, sì, capito? Ma una paura terribile avevo. Ora, al di là di questo fatto che lei sta dicendo, il problema è un altro. Al di là di quello che dicono, non è che quello che dicono conta. Cioè, una cosa che riguarda me, dunque, quello che dico conterà pure. Insomma. Ho la mia radio sintonizzata su Radio 24. Sì, benissimo. E sono lettore del Sole 24 Ore. Allora, benissimo. Quindi sono mi contento. Ritrovo nella linea editoriale del Sole 24 Ore di Radio 24. Benissimo. Non c'è le... Ad un certo punto succede che la sera sono costretto a sentire il suo programma e non voglio cambiare. Lei è fantastico. Perché lei, no, ma io l'ascolto, perché poi ho una speranza finale e dico che alla fine andrà a finire così. Lei è strepitoso. Siccome il suo programma è veramente fuori da quella che è la linea editoriale, sia della radio dove lavora lei che del suo lei non ha capito nulla. Lei non ha capito niente. Comunque, vada avanti. Sono convinto del fatto che il suo direttore responsabile dovrà rendersi conto. Sì, lei mi vuole cacciare. Un altro di quelli che mi vogliono cacciare. Va benissimo, non c'è problema. No, come no? È così, ma non c'è problema. Siamo nella normalità. Lei voglio dire, non fa terminare le persone. Ma non è, ma io sto sintetizzando. Qui c'è bisogno di sintesi. C'è bisogno di sintesi. Qui c'è bisogno di sintesi. Ma no, ma lei sta parlando da 3 ore. Abbia pazienza. No, lei mi sta costringendo a ripetere gli stessi concetti da 3 minuti. Va bene, vada pure. Allora, avanti. Finisco per dirlo. Sì, ma non è un comizio questa trasmissione. No, ma amico, non si... deve capire, no, lei è sicuramente maleducato. Sì, sono maleducato. Se sì, maleducatissimo. La sua trasmissione diventata la radio spazzatura come la TV spazzatura, si rassegni, perché io sono convinto. Benissimo. Che gli ascoltatori mi sono già rassegnato. Insiste ancora con questa storia. Non si deve rassegnare, ma lei vedrà che il suo direttore responsabile capire che dell'audience e dei passaggi pubblicitari una radio come Radio 24 non sa che farsene, perché ha uno stile portare avanti, perché altrimenti la sala questa non è più Radio 24 ma Radio 4, tipo 4 di Mediaset, e non penso che nello spirito degli ascoltatori, dei lettori e dell'editore della Radio 24 ci sia questo. Ci ha fatto la lezione sulla linea editoriale. Ha visto che lei, lasciandomi parlare per un minuto, mi ha permesso di esprimere completamente il mio concetto. Sì, ma io lo faccio quasi sempre, caro Franco. È lei che non ha capito assolutamente nulla. Abbia pazienza. No, io non so. Non mi può dire che non ho capito niente. Non ha capito nulla di questa trasmissione, perché se io l'ho lasciata parlare tranquillamente, succede sempre così. Succede sempre così. Vabbè. Pari o uguale ma io non ho detto che non capisce nulla in generale, ho detto che in questo caso non ha capito nulla. Questo suo programma dove vuole parare? Ma le assicuro. Ma che sta dicendo? Ma vuole parare dove? Quando? Ma lei sta blaterando delle cose che non hanno senso. Ha capito? Ma questo lo dice lei, io lo stanno dicendo tutti gli ascoltatori che telefonano. Ma quando lei mai? Mi dica il motivo per cui non arrivano telefonate gli ascoltatori che dicono quanto è bravo Cruciani. Oh, caro Franco, lo vuole sapere perché siccome lei queste cose qua non le capisce, ma fa finta di capirle. E allora io, se vuole, sto qui a spiegarle il fatto, qual è il meccanismo, stia zitto per un attimo, si taccia per un secondo. Ora che non voglio parlare di altro. Vabbè, ma non vuole parlare di altro, decide lei quello di cui bisogna parlare o no, ma guarda, roba da... Guardi un po', ho trovato uno che decide al posto suo. Sì, benissimo. Va bene. Buon lavoro, speriamo che il direttore responsabile mi cacci. Benissimo. Le dia un'addrizzata, benissimo. Sì, bene, grazie Franco. Grazie. Roba da matti, cioè, c'è gente che pensa di dare linee editoriali, di suggerire reprimende. Signor Franco, il bello della zanzara, anche questo, no? Sono in fondo. Ma per carità, va benissimo. Infatti allenatori qua... della nazionale. Lei deve sapere, signor Cruciani, mi dà sul lavoro, per forza, è il capo assoluto della trasmissione. Cioè, zanzara è una dittatura illuminata. Ma perché hanno zero, che cos'è? Se uno vuole iniziare a parlare, dice no, prima vediamo il servizio e poi dopo forse. Poi, cos'è che parlava la linea editoriale? Non so di che parla la linea editoriale, non è in linea con che. Non è, proprio... Senti che belle le campane del Duomo, senti. Fammi sentire le campane. No, ma non sono in linea con la. Sì. Non è la linea editoriale, le campane del Duomo. Fammi sentire le campane del Duomo, diamo un po' di valori a questa trasmissione, riempiamola di valori anche. Dopo la spazzatura, sentiamo la cosa, sentiamo le campane. Senti che bello. Senti che bello. Che bello, forse questo è più in linea col Sole 24 Ore, come secondo l'ascoltatore. Che dice? È in linea oppure no? Adesso mi chiederò continuamente di notte, di giorno. Senti che bello. Fammi sentire. Ecco. Bellissimo. È un po' funerea come cosa, eh? No. No, no, sono belle campane, no, in realtà non è funere, no. No, ma adesso questo che c'entra? Sempre il bosso, no, sempre il bosso che interviene. Dopo il traffico, Mimmo Scilipoti. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di collesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. Bene, bene, siamo qui. Caro Scilipoti, buonasera. Non c'è più, che è successo? Ha abbassato. Roba da matti. Luciano da Napoli si è messo paura, non credo, Scilipoti è un grande combattente. Pronto? Sì, caro Luciano, dica. Ah, buonasera. Dovevo dire tre cosine, se è sì. Dunque, intanto che il divino Terma, io ho seguito la trasmissione, penso sia stato a ottobre, settembre, non mi ricordo. Sì. Io ho fatto una previsione brillante che aprile-marzo saremmo andati a votare. Lei dice, aveva previsto le elezioni per aprile, per aprile di quest'anno. Deve tirare forse la trasmissione che ha fatto, è stato ospite lui, l'ha fatto da voi in diretta, quindi se l'ha ritrovato. Non me lo ricordo adesso. Bravo, bravo, bravo, l'abbiamo ottenuto. Una cosa gravissima adesso. Vabbè. Andate a riprendere perché andiamo a riprendere, andiamo a riprendere questa cosa. Bene, grazie Francesco dalla provincia. E poi un'altra cosa, se un'altra cosa, dica Luciano. Un'altra cosa, volevo succedere a Berlusconi, se vuole rivincere le elezioni. Sì. C'ha due cose da fare. Che deve fare? Dimettersi entro Natale, come dice Formigoni? Dimettersi entro Natale, come dice Formigoni. La cosa per i due elettori deve risolvere, la finanziaria la risolve con un bel condono fiscale. Quindi questi soldi li caccia fuori chi è interessato ed è anche una forma volontaria. No? Cioè che deve fare un altro condono fiscale per vincere le elezioni? Un condono fiscale deve fare, così incassa un po' di soldi e rivince le elezioni. Ma adesso non è che con i condoni si vincano le elezioni necessariamente. Cioè, lei dice si crea consenso con i condoni. Vabbè. Si crea consenso e Berlusconi è stato eletto per questo, c'è poco da fare. Un bel condono fiscale e via. Un bel condono fiscale, quindi la gente paga volentieri, diciamo volentieri, insomma, e fa comodo pagarlo, quei soldi, incassa un bel po' di soldi e una gran parte del suo elettorato, che io non, di cui non ne faccio parte, lo voterà sicuramente. Allora, perché... un messaggio per la scuola, grazie signor Luciano, un messaggio per l'ascoltatore di prima. Un'altra cosina, se pure, mi permette. Un'altra cosa, dica. Erano tre, volevo ringraziare. Però veloce. È una sola. Volevo ringraziare i signori della Padania, che sanno... sono stati di grande stimolo per il sud, perché al sud stessa voce gira molto, no? Cioè, sentendoci un pochettino noi, diciamo, la dico grossa, schifati, diciamo, da questo nord che dice qua non si fa niente, cioè qua c'è un grande affare in giro e cercheremo di farci tutto da solo, così il nord, noi non abbiamo bisogno del nord e il nord non farà. Vabbè, Luciano, non ho capito niente. Comunque, grazie, grazie. Allora, un ascoltatore scrive: ho un negozio e la gente che entra mi chiede perché sto ridendo come un pazzo, visto che sono da solo. Non sanno che sto ascoltando voi, e questa è una piccola risposta all'ascoltatore di prima. Non so se sia questo qua sia nella rotta giusta, questo messaggio con la linea editoriale di cui parlava prima l'ascoltatore. Che dici? Adesso mi chiederò, per qualche giorno mi chiederò continuamente se quello che sto facendo è in linea con. Non so con che cosa, però. Ma quando si arrabbiano con me mi piace moltissimo, perché fa parte del eccolo, tornato da noi, Scilipoti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Come andiamo? Buonasera, onorevole, benvenuto alla Zanzara, buonasera. Parenzo, mi raccomando, mi raccomando. Allora, no, ho detto buonasera, no, onorevole, infatti, e benvenuto. Allora, siccome c'è poco tempo, infatti, cerca di essere. Buonasera, onorevole. Ieri ha esagerato. Ieri buonasera hai esagerato. A lei, buonasera a lei. Allora, buonasera, onorevole Scilipoti. Ancora, basta. Cioè, l'hai detto già più volte, basta. Allora, è vero o no, onorevole Scilipoti, questa è interessante, anche curiosa questa cosa, sì, che Berlusconi, si sta curando anche con l'agopuntura? La dieta dimagrante di Berlusconi comprende anche l'agopuntura o no? Ma questo non lo so, io è un'indiscrezione, che sa lei, io non la sapevo. No, l'ho letta su un'intervista che ha fatto Bocchino a Oggi o Gente, non mi ricordo adesso. È vero o no? Perché lascia il suo zampino, mi sa. Non lo so, è un'indiscrezione che sto apprendendo da lei. Poi no, ma ci dica questa cosa, l'ha iniziato all'arte dell'agopuntura? No, io non ho iniziato, io ho parlato con il Presidente, come ho parlato con tanti altri parlamentari, ci sono molti parlamentari che apprezzano l'integrazione della medicina allopatica, anche la medicina olistica, che comprende anche l'agopuntura. Quante persone ha convinto, signor Scilipoti? Ma quanti ne ho convinto? E che ne so, facciamo... Nella mia vita... No, nell'ultimo periodo di deputati... Di politico, adesso... Di della mia professione di medico. No, adesso, in quest'ultimo periodo, da quando, diciamo, da quando sono successi i fattacci del 14-18, da quel momento in poi, quante persone ha convinto? Ma non lo so, in Italia, dico da... No, ma alla Camera. Alla Camera, io credo che un po' di deputati, all'incirca una trentina, si sono ricreduti anche su questa tecnica, che è la tecnica dell'agopuntura. Dunque, ho convinto 30 deputati ad avvicinarsi all'agopuntura, una cosa straordinaria. Ma Berlusconi è tra questi? No, non lo so, dico, ho parlato con Berlusconi, però poi non so se... Ma con l'agopuntura, per esempio? Al punto tale da chiedere l'applicazione del protocollo terapeutico con l'agopuntura su se stesso. Ma con l'agopuntura si può dimagrire? Anche. Ah, sì? Cosa va... Una cosa eccezionale. Anche, l'agopuntura è una tecnica veramente miracolosa, in alcuni casi riesce a fare e a risolvere dei problemi che con la medicina tradizionale molte volte non si riescono a risolvere, problematiche che affliggono. Dunque anche la dieta che fa Berlusconi potrebbe comprendere l'agopuntura, non è sbagliata. Potrebbe comprendere l'agopuntura, comprendere l'agopuntura, perché l'agopuntura si utilizza... Sì. Si utilizza nei protocolli insieme alla terapia alimentare per ottenere il massimo dei risultati e far sì che poi i chili che si perdono non vengano ripresi immediatamente e si dimagrisce in modo tale che in giusto equilibrio con i chili che si perdono. Hai capito Parenzo? No, ma questa è molto interessante. La cosa che vorrei però capire adesso, a noi ce lo può dire Ciripoti, cioè Berlusconi sta adesso, grazie ai suoi consigli, sta utilizzando l'agopuntura per dimagrire. Ce lo può no, dire? Non ho detto questo. Ho detto che ho parlato di agopuntura con Berlusconi. Quello lo sapevamo. Ho visto che mi ha ascoltato e da parte sua c'è stata, dopo di avermi ascoltato, si è documentato e ha detto, quando ci siamo fatti qualche chiacchierata, che l'agopuntura potrebbe essere, a suo giudizio, da quello che lui ha letto, da quello che sa, potrebbe essere utilizzata ad integrazione con i protocolli classici allopatici. Questa, poi se la utilizza non lo so. Pensate, povero Berlusconi, che perché è passato... perché è passato l'agopuntura dalla costruzione, potrebbe essere applicata dalle conoscenze, dico, da quello che ha sentito, dico perché è un grande uomo, sono un imprenditore. Soltanto da... dai consigli di altri colleghi, che l'agopuntura potrebbe essere integrata ai protocolli tradizionali di medicina allopatica e dare qualche risultato in più nell'interesse dell'essere umano e nell'interesse per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Volevo mostrare solo solidarietà a Presidente Berlusconi, che è un uomo che ha costruito grandi aziende, un uomo di successo che nel bene o nel male ha governato questo paese per 20 anni e che adesso è costretto, come dire, a subirsi sta roba dell'olismo. Comunque va bene, cioè, un grande uomo anche per questo. È un'altra cosa, stiamo parlando di... No, ma ho detto solidarietà a Berlusconi perché... Stavamo parlando di agopuntura. Va bene, allora, un altro questione. Scusa, onorevole. E poi non capisco perché quando si parla di olismo è come se ci fosse qualcosa, come se parlassimo di argomenti... non reali, di argomenti un po' strani. Olismo è stregoneschi, diciamo, è un paradigma diverso che a mio giudizio sarebbe opportuno, ed è arrivato il momento di integrarlo al mondo e al paradigma che noi conosciamo, in modo particolare nella medicina, che è il paradigma cartesiano e meccanicistico. Integrando il paradigma olistico alla medicina, al paradigma meccanicistico e cartesiano, potremmo dare sicuramente un poco di benessere in più all'essere umano, e questo dovrebbe essere utile. L'importante è, molte volte, dico, per ognuno di noi, ascoltare gli altri, documentarsi e cercare di capire se effettivamente stanno dicendo delle cose che corrispondono alla realtà oppure no. Avere dei pregiudizi e partire con dei pregiudizi è sbagliato. Vabbè, allora, come però... la riflessione che abbiamo fatto ultimamente con uno dei suoi colleghi giornalisti, lo dico a Parenzo, che parlava e si riempivano la bocca, era un uomo di sinistra che parlava dicendo che per migliorare tutto forse si dovrebbero ridurre i parlamentari, invece questo Scilipoti gli proponeva di non ridurli i parlamentari, di lasciarli, ma pagare i parlamentari in base alla produttività, e questo l'ha lasciato un po' perplesso. Scusi, attimo, Scilipoti, lei non li vuole ridurre i parlamentari? Siccome questo lei non li vuole ridurre ridurre i parlamentari, scusi. Ascolti, ora lei risponde alla domanda. Siccome questo giornalista è l'espressione di una politica che ormai è superata, non riusciva a capirmi e non riesce a capirmi. Per rispondere alla sua domanda, non è un problema di ridurre i parlamentari, è un problema di pagare i parlamentari per la produttività effettiva. Ma è difficile valutare la produttività, è difficile. Non è ci sono le presenze, ci sono le presenze e basta. Oltre le presenze non si può andare. Se uno presenta 700 disegni di legge, non significa che è produttivo. Uno può presentare anche 700 stupidaggini. Ma dottor Cruciani, perché mi mette in bocca? No, ma per dire. Ma perché dottor Cruciani ti mette in bocca quello che non ha detto? Proposte di legge che si presentano e in base anche a quelli che andranno in porto. Ah, quello sì. Non solo queste, ma anche l'attività di sindacati ispettivo, anche la presenza sul territorio, anche la presenza dell'aula, anche la presenza degli ordini del giorno, anche la presenza all'interno delle commissioni. Però ci fermi un attimo. Produttività non significa soltanto presentare una proposta di legge o firmare una proposta però di legge. Però abbiamo un argomento ancora. Significa ho capito. Che ogni parlamentare deve lavorare per guadagnarsi lo stipendio. Allora non ha importanza se sono 630 o 315. L'importante è che uno percepisca in base a quello che riesce a dare nell'interesse della collettività del ruolo che esercita. Però, parla Scilipoti. Lo statista. Parla Scilipoti. No, parla Scilipoti, tu lo dovresti ascoltare perché ti farebbe bene sicuramente e molte cose che dice Scilipoti dovresti capire che potrebbero essere utili e non ha importanza Scilipoti. Se Scilipoti appartiene a un piccolo gruppo o a un grande gruppo, ha importanza per le cose che dice e perché le cose che ha fatto. A differenza dei tuoi parlamentari, tuoi parlamentari che scaldano la sedia da 30 anni all'interno del Parlamento, questo Scilipoti in 2 anni e mezzo ha fatto di più di 20 parlamentari amici tuoi. Siccome Scilipoti afferma un attimo che solo i quali sono da 30 non riesco anni a chiedere questa roba è arrivato qua. Il momento che abbandonino per andarsene a casa e cambiare lavoro e mestiere, può anche darsi che questo Scilipoti gli dia fastidio, si attende a coloro i quali creano le condizioni di stabilità in quest'Italia, perché non hanno né il senso della patria né il senso dello Stato. Allora Scilipoti, però una sola cosa, perché lei parla al telefono? Perché lei parla al telefono col signor Sai e con la signora Cannizzaro, che sono due, insomma, lo sappiamo chi sono. Perché scusi, ci parla? Prego, non ho capito. Perché lei parla al telefono con il signor Sai e la signora Cannizzaro? Che vergogna. Perché parlo al telefono? Perché ci parla? Perché parla? Perché io parlo con tutti e non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. Ma lei è un deputato. Credo che la cosa più importante in questo mondo è parlare con tutti. Ma lei è un deputato. Tutti. Come parlo con Parenzo, che sta dall'altra parte della barricata della mia, e so perfettamente che rappresenta un mondo che per alcune cose è diverso nel mio modo Scilipoti, di concepire. Ma parlo tranquillamente, non capisco perché non potrei parlare con altre persone che la pensano in modo diverso da Parenzo e molte in modo diverso da come la penso io. Senta Parenzo, però ascolti è un deputato della Repubblica che seleziona le sue amicizie anziché frequentare quella gente. Non dica, allora intanto quando si parla vergogni, deve avere il senso. Si vergogni. Dottor Cruciani, mi ascolta per favore, dica a Parenzo quando parla deve dare significato alle parole. Amicizia è una cosa, parlare al telefono è un'altra. Ma lei ha progetti politici. Il significato ha progetti politici. Scusi dottor Cruciani. Ha progetti politici. Prima dovrebbe capire. Ho capito, ha progetti politici insieme a Sai o no? Io non ho più progetti politici, i miei progetti politici li ho messi. Ma perché parla con gente che ha quelle idee là del signor Saia? Questo vuole dire Parenzo. È una vergogna. Che vuole dire? Scusi, non riesco. Parenzo vuole dire che è un fascista, è un uomo che odia gli omosessuali, odia i negri, odia gli ebrei, io è un fascista. Saia l'ha detto. Ma veda, ognuno si assume la responsabilità. Ma lei non ci dovrebbe parlare con personaggi del genere. Selezioni le sue amicizie. Ma lei ancora ritorna con le amicizie. Passare al telefono. Si vergogni, cartesiano. Si vergogni, cartesiano. Cartesiano. Cartesiano. Sei un cartesiano. Sei cartesiano con Saia e con le amicizie, scusa. Sei un cartesiano, sei un cartesiano. Ma che c'entra cartesiano? Olistico. Cartesiano. Olistico. Olistico. E con le amicizie. Non c'entra niente. Non riesco a capire che cosa vuoi dire, Parenzo. Sei olistico pitagorico. Dobbiamo chiudere, grazie. Olistico. Ma che c'entra cartesiano olistico pitagorico? Dobbiamo chiudere. dobbiamo chiudere un discorso con una certa logicità. No, no, in questo caso Parenzo ha derapato nel nulla. Noi quando parliamo è per far capire. Ha ragione. Comunque, secondo me dovrebbe limitare le telefonate con Saia. Grazie. A lunedì. Ma io non faccio telefonate a nessuno, semmai ricevo qualche telefonata. Vabbè, comunque, e insomma, chiuda il telefono. La Zanzara è il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.